Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno. Ispirato ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft. Svela un mistero celato da eoni tra i ghiacci del tempo. Affronta l'incubo. Chronicles of Innsmouth, Mountains of Madness. Dal 23 marzo su Steam. Approfitta dello sconto del 10% al lancio. Runtime Radio, la tua talk radio geek. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Carissimi amici di Runtime, benvenuti come tutti i giovedì sera alle ore 21:30, a volte alle 21, a seconda di come ci gira, a Quando eravamo futuro, questo programma spazio-temporalmente dislocato che non mi ricordo poi come continua lo slogan e quindi facciamo finta di niente. E do immediatamente il benvenuto ai miei sodali, questa sera come sempre Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, dopo continua semplicemente dicendo a cura di Carlo Sant'Agostino. Ah, okay. Ciao, okay. Carlo Sant'Agostino, che abbiamo saputo recentemente non capisce un cazzo, non sa niente, non è informato. Sì, vabbè. E quindi è importante, sono cose importanti. Certo. Roberto Tomaiuolo. Ciao cari, anch'io non capisco un cazzo, ma questo non c'era bisogno che me lo dicessero. Lo sapevamo di nostro, dici. Ok. E Davide Gatti. Eccomi qua, io non capisco una panza, ma ci sono lo stesso. Benissimo. Allora, Davide Gatti, ricordiamoci sempre il suo canale YouTube Survival Hacking, che ovviamente fa da spola praticamente a quello che è poi ovviamente il suo podcast audio storico. Ma ricordiamo anche che oggi è uscito un nuovo video sul canale di archeologia informatica, e video dedicato all'associazione Retrocampus, che insomma è una sorta di nostra, insomma, amica, associazione amica, cioè amici siamo, insomma, in questa avventura. E un po' sponsor, dai. Sì, diciamo, c'è questa cooperazione bella, insomma, giusto che poi che sia così. E, bel video, insomma, avete visto, in due settimane abbiamo pubblicato due video dopo mesi d'assenza, come sapete, insomma, c'è stato il Covid, non so se ve ne siete mai accorti, che oramai è diventata un po' la scusa per qualsiasi cosa, però vabbè, in realtà per noi che facciamo video in loco con le persone, quindi facendo le interviste e tutto quanto, chiaramente ha creato comunque dei problemi. Speriamo, insomma, presto di riuscire a organizzarci. Salutiamo intanto in chat Ruggio81 che ci dà buonasera e benvenuto anche a te, come tutte le volte che sei sempre presente. Davide, ma hai 2500 iscritti? Ma Davide sta... Davide sta... Se ne accorto adesso. Sì, me ne sono accorto adesso. Davide spacca, cioè nell'ultimo mese e mezzo è proprio pim. YouTube gli ha detto: alla gente interessa ciò che fai? Beccate questo endorsement. Adesso vediamo se continua questo trend, anche se sta già un po' ritornando nei ranghi. Però porca miseria, dai. Sì. Quando Carlo si convince a parlare delle cose che lui sa e di cui vuole parlare fra 10 anni, poi ne parleremo, ma questo è un altro discorso. Ma anche lui deve parlare con Carlo, non sa un cazzo, non capisce niente, si deve informare prima di dire le cose, insomma. Vabbè, comunque dai, detto questo, questa sera facciamo una cosa molto più easy, molto più leggera rispetto a quello che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, perché diciamo parliamo veramente di società, più che di costume, diciamo proprio parliamo di società, cioè di quello che sono alcuni aspetti degli anni 70 in particolare, ma anche anni 80, e che oggi comunque in qualche maniera o non esistono più o sono stati O si sono trasformate comunque in qualcos'altro, o si sono, diciamo, anche allargate, ecco, diciamo così. Proprio se vogliamo fare alcuni paragoni, diciamo che molte attività che c'erano una volta sono state magari inglobate in delle macro attività, mentre che alcune sono, diciamo, scomparse, anche se poi, come dicevamo magari fuori onda, insomma, fra di noi, nelle riunioni di redazione, in realtà alcuni di questi esempi che faremo questa sera in certe location, in certe realtà, esistono ancora. E questo, intanto qualcuno sfoglia, fa cose che non so, però vabbè. E parliamo praticamente delle attività commerciali, delle botteghe, delle realtà più artigianali che esistevano negli anni 80 e 70 e che oggi praticamente sono quasi scomparse, o se non addirittura scomparse. E io immagino, insomma, che poi ognuno di noi avrà degli esempi specifici, secondo poi ovviamente la città di provenienza, la realtà di provenienza. Perché? Perché, come abbiamo detto tante volte, molte attività erano sicuramente simili, ma alcune denominazioni, alcune caratteristiche erano diverse a secondo della regione, della città da dove si proveniva, perché in un mondo ancora non globalizzato molte cose erano differenti, insomma, come dicevamo, era 300 km di distanza, potevano fare la differenza addirittura anche tra la vita e la morte a volte, perché io per esempio ho un'esperienza mia personale dove un parente ha subito una determinata cosa che nell'epoca, se fosse stato in un altro posto, forse l'avrebbero magari gestita diversamente, no? Ecco, faccio questi esempi un po' così, non c'entrano niente. Però non c'erano solo piccole botteghe, ma in realtà al di là delle grandi aggregazioni, dei centri commerciali, delle grandi catene, che poi magari citeremo anche, perché che piano piano sono arrivate in Italia, cose alle quali noi non eravamo concettualmente abituati, in realtà c'erano delle presenze anche già storiche, insomma, quindi delle grosse catene, insomma, come si possono chiamare? Sì, catene, insomma, vabbè, dei grossi franchise anche in Italia, insomma, che erano storici e che esistevano da moltissimo tempo. Quindi andiamo un attimo a fare dei piccoli esempi, e mi piacerebbe rifare questi esempi io, ovviamente, con Davide, Carlo e Roberto, cercando magari di vedere se abbiamo anche dei ricordi che sono connessi a queste attività, a queste realtà commerciali, che magari quando eravamo ragazzini le abbiamo vissute in una certa determinata maniera, o ci ricordiamo, perché poi tante volte anche un odore, anche un colore, anche una determinata situazione in realtà poi può risvegliare in noi delle memorie. Non so, ragazzi, voi insomma avete focalizzato, no, poi il tema della... Sì, sì, sì. Vi è abbastanza chiaro. Sì, sì. Poi adesso, vedendo il documento, eccetera, e gli appunti che ha messo il buon Davide, ci sono cose che coincidono con quello che avevo segnato io, ma adesso ne parleremo con sì, con teniamo calma. Teniamo conto che noi siamo tre che siamo di Milano circa, in quei periodi eravamo quasi tutti in zona Milano, e uno di Roma, quindi abbiamo tre che hanno vissuto una cosa diversa, magari perché eravamo in province diverse, ma tutto sommato magari un po' simili anche come nomi, eccetera. Quindi siamo tre contro uno quasi stasera. Beh, non è una questione di essere contro, è che da quello che ho capito in realtà ci sono alcune cose che ad esempio avevano delle denominazioni diverse, ma non soltanto nell'uso comune, ma anche magari proprio nell'insegna, cioè nel senso cose che dei market, quindi delle attività che esistevano a Roma erano più o meno le stesse che magari esistevano a Milano, solo siamo in maniera diversa. Quindi anche questo poi è un po' strano, perché quando tu conoscevi la gente, non essendoci praticamente questa globalizzazione anche dialettale, no? Dove praticamente i termini più o meno si mischiavano, come succede oggi. Ad esempio, per me la cicca era la sigaretta, per un ragazzo era magari la gomma, cioè la gomma da masticare. No, la cicca era il chewing gum, era la Brooklyn, esatto. Era la Big Bubble, e vedi, era quella, sì, la cicca. era anche quella della sigaretta, ma se uno mi diceva una cicca, la prima cosa che veniva in mente era la gomma da masticare. Sì, sì, la cicca della sigaretta magari la usavi, ma poco, per indicare quelle che erano per terra. Sì. Quando, c'era qualcuno che le chiamava cicles anche, ogni tanto saltava fuori. No, cicles è torinese, è piemontese. Piemontese. Sì, la cicles. Cicles. Beh, cicles è piemontese, andavi verso nord-ovest, quindi ti spostavi verso il Piemonte, già da Novara, diciamo, da quelle parti lì iniziavano a dire cicles al posto di cicca, per dire Chewingum sempre. Sì, sì. Bene, io inizierei, ad esempio, una delle cose che mi ricordo proprio in maniera lampante, sotto casa mia, dove poi dopo c'è nata una tabaccheria che poi è diventata... piccolo store, insomma, sai, perché poi pure le tabaccherie nel tempo si sono trasformate da semplice venditore di sigarette a X numero di cose che magari vendevano, addirittura alcune sono diventate un po' edicole, un po' tutto, insomma, vabbè. Comunque, da me, proprio sotto casa mia a Roma, c'era la latteria, che non era il bar, ma era proprio la latteria, cioè era proprio il posto dove si vendeva prevalentemente il latte e connessi e annessi, quindi magari potevano essere i formaggi o quelli che oggi magari si chiamano i primi sali, le mozzarelle, insomma tutte cose del genere, diciamo, tutti i latticini, diciamo, esatto, bravo, esatto. Mi ricordo che questa cosa, per esempio, poi vi lascio la parola, è che non solo ne esistevano diverse a Roma, ma che più o meno c'avevano, cioè io me ne ricordo due in particolare che erano abbastanza simili, entrambe c'avevano tutte le mattonelle, tipo quelle che noi abbiamo al cesso praticamente, su tutto il negozio c'erano queste mattonelle, e tra queste mattonelle c'erano questi disegni delle mucche giganti, no? E a Roma si usava dire la latteria o la Sora Rosa. Non si sa perché la latteria era la Sora Rosa, cioè nel senso sta signora Rosa era, doveva fare per forza la lattaglia, non è che c'erano tanti cazzi. E mi ricordo, e questa è una cosa che sicuramente oggi non c'è più, ma fino a 15 anni fa a Roma, dietro Campo di Fiori, dietro al Drunken Chip, che è una birreria dove insomma ci si incontrava De Fori con tutti gli stranieri e cose, c'era questo posto che ancora sopravviveva ed era meraviglioso perché era gestito da ste tre vecchie, di cui una era proprio vecchia vecchia, una un po' meno vecchia, l'altra un pochino meno vecchia della meno vecchia, però insomma sostanzialmente erano ste tre vecchie dove c'erano praticamente da una parte tutti quanti i biscotti del Mulino Bianco, anche quelli insomma che tu pensavi non esistessero più, invece ancora esistevano, da un'altra una collezione di lattine incredibili da non so tutte le parti del mondo, penso che si cascava una di quelle, le biastime se sprecavano, e poi c'era sto barraccio praticamente con la latteria annessa, dove praticamente se tu glielo chiedevi la signora ti faceva il cappuccione, era praticamente la tazza del latte, quella che c'hai a casa, con il cappuccino, però col doppio del caffè e il latte, no? Quindi bello cremoso, roba del genere. Ti prendevi la scatola dei biscotti e ti mangiavi i biscotti con latte e il caffè, cioè una cosa meravigliosa. Oggi sicuramente una colazione per strada, esatto. Beh, per strada in realtà era interno, insomma, questa cosa. Però ecco, le latterie è una cosa che io mi ricordo tantissimo. Raramente capitava che mia madre mi mandava giù a comprare il latte con i soldi contati o non contati, e come al solito del resto che ti davano del resto tante volte quando non c'avevano il resto, due cose, due cose te potevano dare, che ci potevano avere un valore, o la caramella, quindi la gomma, la caramella, quelle che sfuse, no? Quelle che valevano un centesimo praticamente, oppure i gettoni. Però questa cosa dei gettoni ne parleremo. I gettoni erano valuta corrente, certo. Sì, sì, erano valuta. Cioè, era una valuta che prima valeva 100 lire e poi 200 a un certo punto, si è raddoppiato il valore praticamente da un giorno all'altro. Bene, voi avete i ricordi della latteria? Ma guarda, io se posso, non so se gli altri hanno qualcosa di ricordo preciso sulla latteria, lascio agli altri, perché io le latterie non penso esistessero, almeno no, dove abitavo esistevo. Io e nei miei ricordi non c'erano le latterie, quindi se qualcuno se la ricorda... No, io avevo una latteria sullo stile di quella di Simone, anche se non aveva le piastrelle bianche, che in compenso ce le aveva il macellaio, Vabbè, qualcuno ce la doveva avere. Sembrava un ospedale. Sì, ma forse perché la piastrella faceva pulito, magari dava questa sensazione. Sì, quello sì. Era la macelleria con le piastrelle, quella me la ricordo. La latteria c'era, ed era la latteria negli anni 70, quando io ero proprio ragazzino piccolo, era su quello stile. Poi nel giro, diciamo, di negli anni si è trasformata in sempre vendere qualcosa di più, fino a diventare bar, latteria, bar, pasticceria, sì, certo. Salumeria, bottiglie, barattoli, robe, scatolame, eccetera, fino ad arrivare ad avere lo Space Invader dentro, ecco. Sì. Oppure lo Space Invaders, cioè nel senso li invadeva proprio, insomma. Salutiamo in chat Angela Girasole e Michela, vedi, tutte donne stasera, quindi. Comunque questa latteria è stato uno, io ho tutta una serie di negozi che io abitavo in un grosso conglomerato, era un caseggiato molto grande con sotto tantissimi negozi, no? Quindi la latteria è stato uno degli unici che forse è sopravvissuto più a lungo rispetto a tutti gli altri. L'unico che ha resistito, che poi è passato in mano a dei cinesi, poi a degli arabi, poi diciamo è stato un po', come dire, è diventato poi un negozio pseudo etnico, però è quello che ha resistito. Tutti gli altri sono o chiusi, quasi tutti chiusi, o sono diventati proprio delle altre. No, da me la latteria, la latteria in particolare, quella che conoscevo io, al di là di quelle altre che c'erano comunque in giro per Roma, era gestita da questi due signori anziani. E quando comunque uno dei due poi è morto, l'attività è morta, cioè fondamentalmente nessuno ha mai rilevato l'attività, quindi è stata chiusa per un periodo di tempo e poi magari l'attività commerciale successiva era un'altra cosa, cioè quello sicuramente. Sì. Quindi no, qui come struttura, diciamo, il negozio è stato ceduto diverse volte, immagino, a varie altre persone. Poi io dopo sono andato via da quel palazzo, non ho abitato più lì, però comunque la vedevo che c'era, andavo a trovare mia mamma e vedevo che c'era, e ha resistito. Poi era in mano a personaggi sempre diversi, poi non l'ho più frequentata e non so bene cosa è diventata, magari c'è ancora adesso, chi lo sa, non ci vado da una vita. Comunque è una di quelle delle poche che ha resistito. Roberto? Invece, come dici? Roberto, sì. Roberto? Eccolo, no, io mi muto per evitare i rumori molesti di cui sapete. E vabbè. Guarda, io parto con un ricordo di quando ero molto piccolo e quindi andavo, io come sapete sono di nascita napoletano, sebbene sia cresciuto a Milano fin da quando avevo, credo, un mese, quindi tutti i miei ricordi sono milanesi, se vogliamo, però ritornavo a casa dei miei nonni una volta, tipo solitamente d'estate. Tu eri Milano, giusto? Io ero Milano, città studi, che all'epoca era periferia, adesso è quasi a fianco al Duomo. Esatto. Sì. E praticamente ho questi ricordi di Napoli un po' particolari, perché ricordo dei, diciamo, negozi che tali non sono, che erano i bassi napoletani, erano delle sottoscala dove le persone dormivano, però molto spesso di giorno, affacciandosi sulla strada dalla parte di sotto, diventavano delle specie di bancarelle. Quindi io, camminando per strada, mia nonna mi portava, ricordo queste persone dove dietro tu vedevi la casa, il letto e tutto, che però si arrangiavano vendendo giocattoli. Mia nonna mi comprava sempre qualcosa. C'era una signora con un enorme pentolone dove faceva le pannocchie, dentro questo enorme pentolone tipo strega, le pannocchie, che tirava fuori la pannocchia, ci metteva il burro e me lo dava, ed erano di una bontà incredibile. Così come ricordo che lei comprava le uova e spesso la mattina mi faceva lo zabaione con tanto di tocchettino di liquore fatto a mano con lo zucchero, quindi una bomba calorica e una bomba anche, cioè, al giorno d'oggi. E su questo c'è un aneddoto dopo, vai. Quindi, ed è una cosa che sembra più ladri di biciclette, se vogliamo, veramente di un'epoca totalmente scomparsa. Io ricordo davvero i ragazzi che si attaccavano dietro ai tram, ci sono delle foto molto famose, se vedete, dietro a, sapete, i tram elettrici, da una parte dietro con una specie di disco, e molti, per non pagare il biglietto, si appendevano nei posti più strani. E quindi sono questi ricordi che io venendo da Milano per me erano un po', come posso dire, incredibili se vogliamo, però adesso li ricordo con commozione, se vogliamo, di un mondo che era l'Italia del dopoguerra, un posto in molti casi comunque contadino ancora, persino nelle grandi città, anche nelle grandi città i rifornimenti erano fatti, venivano dalla campagna, non è? E io ho avuto questo piccolissimo, solo un ricordo, accenno di queste cose, che però ho piacere insomma di ricordare, prima di rituffarmi invece anch'io nella milanesità, poi magari ci torniamo dopo, di altre cose che invece ricordo meglio perché ero un pochino più grande. Certo, quindi tu la latteria non te la ricordi fondamentalmente. Io avevo, guarda, una panetteria sotto casa che si chiamava Cattaruzza, che erano siciliani, come praticamente ho detto più volte, questo a Milano, perché il 70% di chiunque era a Milano non era milanese, per cui era un posto davvero cosmopolita, però noi lo chiamavamo più panetteria, alla mia, sebbene vendesse anche il latte. E la cosa particolare, cioè sì, il prestinè sì. A Milano, prestinaio, infatti è quello che intendevo io prima, cioè la latteria io veramente non me la ricordo. Io, ecco, il buon Roberto ha raccontato di Napoli e viveva a Milano città, Davide viveva nella periferia di Milano, quella appena attaccata dell'edilizia popolare, quella già con i casermoni e centinaia di persone che abitavano tutte insieme. Io invece vivevo negli anni 70 e 80 in campagna, perché settimo milanese, al contrario di Cinisella dove viveva Davide, era proprio ancora piena campagna, era proprio in mezzo ai campi, le mucche, cose così. Io casa mia avevo dietro di me, c'era la fattoria con le mucche che facevano latte, quindi la latteria ce l'avevi in casa, insomma. La latteria ce l'avevo, da noi sì, il latte ce lo portava al Bacazzola. I negozi magari ci voleva bisognava fare un viaggio per andare nei negozi magari. Sì, allora, infatti a settimo c'erano i negozi, me li ricordo, in centro, e ci andavi, ma non c'era la latteria, c'era invece l'equivalente era il prestinè. Era, sì. Che era il panettiere, ma in realtà oltre al pane vendeva un po' di tutto dentro, soprattutto quello che io mi ricordo, i sacchetti di patatine con la sorpresa, perché si andava, la mamma comprava il pane, io tiravo giù il sacchetto San Carlo con dentro la sorpresa che volevo prendere. Bene, Girasole in chat dice che una volta la zia gli ha dato tipo 20.000 lire e lei ci ha comprato tutte le gommette, quelle là rotonde praticamente, quelle a pallina, era un sacco enorme. Lì compravi il negozio, esatto. E la zia si è incazzata a bestia. Tra l'altro, voglio dire, cioè, ne parleremo in un'altra puntata. Ma cioè, voglio dire, aver ingerito il succo di quelle gomme significa aver bevuto plutonio. Non sappiamo veramente che cosa c'era. Salutiamo anche PRG in chat. Ciao e benvenuto. E vabbè, niente, questo è un po'... Aspetta, perché volevo dire una cosa che prego. Quando Roberto ha accennato allo zabaione che facevano giù a Napoli, in realtà c'era una cosa a Milano che mi faceva mio nonno, di cui si è praticamente persa la memoria. Adesso cercandola su internet trovi ancora dei cenni, ma mi è venuto in mente proprio prima parlando di quello dello zabaglione, perché era una cosa che si faceva con le uova, lo zucchero e il vino, e si chiamava la resumada. Resumada non era il bombardone, no? Resumada si chiamava, presumo derivi da riesumazione, riesumare, qualcosa del genere, qualcosa che ti tira fuori i morti, li fa rivivere. Esatto. Una bomba della Madonna, c'era le uova, lo zucchero e il vino che venivano messi insieme, e io, mio nonno me la dava che avevo tipo 5-6 anni, una roba del genere. Però beh, ricordo, consideriamo che comunque sono tutte variazioni dello zabaione, perché lo zabaione è uova, zucchero e caffè, se non sbaglio, potrei dire una stupidaggine. No, era solo uova e zucchero allo zabaione. Però mi ricordo c'era lo uova, lo zucchero e il barbera, il vino rosso. Allora, io invece mi ricordo uova, zucchero e caffè. Poi c'era il VOV, vi ricordate il VOV? il Vob, quali montagne. Lo Zabob, il Vob. Lo Zabob, esatto. Il Vob è buonissimo. Comunque, tutte cose di cui si è persa la memoria praticamente quasi. Ma esiste, ancora il Vob? Ma sì, voi? Sì, sì, come liquore penso di sì. Sì, sì. Sì, non lo vedo. Io queste cose delle bevande e delle cibarie anche insomma diciamo non proprio di primissimo ordine ci farei proprio una puntata, infatti ho in mente apposita, alcune cose delle porcherie esatto, beh, quelle, noi siamo dei sopravvissuti, io lo dico sempre, siamo dei sopravvissuti, oggi c'è un davvero, sacco di controllo davvero. Ma veramente dei coloranti e la zozzeria che siamo mangiati esatto. Noi adesso degli ingredienti c'è cioè farina anche quando parleremo della puntata dei giocattoli anche lì. Non c'è la leggi di c'era plutonio dentro cioè, giocattoli di vernice al plutonio, no ma non solo ma alcuni erano pure pericolosi cioè proprio ti tagliavi ingoiabili sì. Qualunque cosa sì, sì. Comunque tornando invece a questo episodio, io un'altra attività commerciale che ricordo bene perché ogni tanto ci andavo con mia madre era quello che da noi si chiamava il calzolaio, che poi in realtà sarebbe il calzolaro, cioè da noi si chiama il calzolaro, quindi il calzolaio, che era di base una sorta di negozio di scarpe, no? Che tu in teoria andavi lì anche per comprare le scarpe, e c'aveva questa piccola bottega, perlomeno quello sotto casa da me, che c'era questa piccola bottega con tutte queste scatole di scarpe e, insomma accatastate come succede anche magari nei negozi di oggi, però poi prevalentemente lui e il calzolaio faceva il calzolaio, cioè faceva anche la giusta scarpe, quindi quello che ti rimetteva la suola, che riparava la scarpa, perché insomma negli anni 70 non è che compravi le scarpe una volta al mese, insomma, cioè e compravi e dovevano durare, poi ecco eri ragazzino e magari con le scarpe buone ci giocavi a pallone, mamma si incazzava e quindi bisognava rimetterci insomma le mani su ste scarpe, e questo poi oltretutto che faceva la terza attività connessa era quella del lustra scarpe, che comunque passava sempre sì. Magari il signorotto che non doveva né riparare né comprare, metteva il piede sulla staffa e questo qui gli illustrava o usava il famoso lucido da scarpe che era del colore della scarpa insomma che corretto correlato insomma, e questo è un altro di quei ricordi insomma che è molto indelebile, perché mi ricordo proprio l'odore del cuoio dentro questi negozi, non so voi se sì. Ci avete memoria. Io sì, come assolutamente, ma come hai visto nel documento, io lì ho messo l'asterisco, perché qua io ti devo dire, poi non sapevo che dalle altre, cioè è una novità quella che mi stai dicendo tu, cioè che da te sono scomparsi, perché qui, almeno dove abito io, a Rovato in provincia di Brescia, ma tutta la provincia di Brescia, in qualsiasi posto, anche a Brescia città, il calzolaio come riparatore di scarpe e lustra scarpe, non che ci metti il piede ma che lasci lì le scarpe da rinnovare o da riparare, esiste ancora e ce ne sono tantissimi, è pieno, cioè fai conto che solo qui a Rovato ce ne sono due, ma in quasi tutti i paesi qua in giro ci sono e fanno ancora quello, il negozio è esattamente come lo descrivi tu vai lì e ci sono i tacchi delle scarpe, i pezzi di cuoio eccetera, i lucidi delle scarpe, gli porti le scarpe, te le ripara, te le sistema, te le fa tornare nuove, soprattutto le scarpe quelle di pelle, quelle magari fatte a mano, quelle costose eccetera, le porti lì, te le risuola, ti mette la sola nuova. Io l'ho fatto diverse volte anche con alcune paia di mie scarpe, e c'era da piccolo e c'è ancora adesso, cioè non è un negozio, non è una sì, diciamo che l'ho un po' premesso anche all'inizio, parliamo di attività scomparse o comunque globalmente scomparse, poi in realtà in alcune realtà come dice giustamente Carlo, ma credo forse anche a Monte Rotondo ci sarà sicuramente un calzolaio tradizionale rimasto, però in generale rispetto a quello che era il negozio di scarpe una volta era quello, cioè nel senso nei quartieri è ovvio che spariscono per il semplice motivo che anche noi stessi, a parte Carlo che sappiamo essere elegante quindi lui veste church e simili, ma nel 90% dei casi noi mettiamo scarpe da tennis o roba simile che non è riparabile, cioè io ho fatto riparare anche le Nike ho portato lì sì è vero. Quindi il problema è che manca la materia prima, cioè in parte ci sono ancora, perché a parte gli scherzi, anch'io ho portato a risuolare le scarpe. E un altro aneddoto, voi non so se lo sapete, ma i veri nobili non mettevano mai scarpe nuove. La scarpa nuova luccicante è cafona. Il vero nobile dava la scarpa nuova all'inserviente che doveva mettersele e camminarle per un certo periodo in maniera tale da rompersi lui i piedi intanto che la scarpa si ammollava e diventava più comoda e il padrone l'avrebbe vestita. Quindi tenete presente questo, quando voi vedete le scarpe, non c'entra niente ma l'ho voluto dire lo stesso, quando voi vedete le scarpe nuove di pacca e luccicanti è una cafonata. Fatta questa nel 1700 però. No. No, io, comunque no, nel mio caso il calzolaio nel mio paese c'è sempre stato, non vendeva particolarmente scarpe, era proprio una botteghina dove c'era proprio l'artigianino che riparava, ti faceva i buchi nelle cinture, ti aggiustava le cinture, le borsette, mia mamma portava le borsette di pelle a riparare, faceva tutti i lavori di pelletteria generali oltre alla scarpa. E poi, diciamo, penso negli anni 80, come molti di loro, sono diventati anche quelli che ti duplicavano le chiavi. Sì, no, da me no, quelli che duplicavano le chiavi erano più quelli che poi sono diventati ferramenta. Però vabbè, poi ci arriviamo anche a questo. Da noi avevamo i calzolai che track, il mio aveva sempre lì per andare a fare le chiavi, andava al calzolaio perché non c'era in effetti un ferramenta in vicinanza e lui si vede che il macchinario era evidentemente similare, non ho idea perché, diventavano anche un po' come negli anni nel 1800 i parrucchieri facevano i dentisti, diciamo, qualcosa del genere, solo perché avevano la sedia apposita per o far ritagliare i capelli o togliere i denti. No, comunque c'era, ha resistito poco e poi dopo noi a Cinisello, rispetto magari ad altri paesi come dove abitava Carlo che era in campagna, da noi siamo stati invasi dai centri commerciali e tutte le attività, diciamo, di quel genere sono passate all'interno dei centri commerciali. Sì, certo. Comunque Biergi dice che da lui al paese suo, che non so qual è, ancora c'è il calzolaio, c'è cioè quelli che non vendono scarpe ma aggiustano, riparano, certo. E Girasole dice che effettivamente anche da lei, soltanto che non sono italiani. Vabbè, poi questo è un po' un ciclo. Vabbè, che si vede, no? Come quando vedevi i film americani degli anni 30 che alla fine quelli che aggiustavano le scarpe non erano americani, erano gli italiani, gli irlandesi, no? Magari e la stessa cosa più o meno, insomma, succede in questo caso. Però sì, non necessariamente vendevano scarpe, però diciamo che il negozietto comunque delle scarpe ce le aveva da vendere, insomma, quindi era un'aggiunta, diciamo. Comunque anch'io a memoria chiamavamo calzolaio sia quello che vendeva solo le scarpe e sia quello che le riparava, per noi era sempre il calzolaio, non avevano due nomi diversi, tra l'altro non ho una cosa a memoria. Vai dal calzolaio e se devi riparare una scarpa sapevi che dovevi andare da una parte, se vai dal calzolaio e comprarti le scarpe andavi dall'altro. L'altro calzolaio. Allora, Piergice dice che lui è di Caravaggio, non so se il nome ci dice qualcosa, insomma. Caravaggio vicino a Bergamo, vicino a dove abito io. No, da me a Caravaggio ci vado in bicicletta. Bravo. Infatti tra bergamaschi e bresciani è la stessa roba. Io sì, voglio dirlo qua, però va bene. La bicicletta che va a Caravaggio lo vogliamo vedere comunque. È la bicicletta di Caravaggio è una tradizione qua. Si fa una volta all'anno, si faceva, e adesso sono vecchio, quando ero giovane. Poi vabbè, passavano sì, a parlare. Perché a Caravaggio c'è la Madonna di Caravaggio, le Madonne stanno dappertutto. Pensavo che ci fosse una meta culinaria. No, cioè, come cazzo si chiama, mi viene in mente la chiesa grossa. Vabbè, esatto, comunque dice PRG, esatto, senza che focalizziamo, ragazzi, è bello, però se mettiamo a parlare di Caravaggio, allora lì alla destra potete vedere il Duomo di Caravaggio. No, dicevo vabbè, poi stavano parlando delle gomme, quelle che con i tatuaggi finti, ma ragazzi ho detto ne parliamo poi di questa roba, quindi non oggi, però insomma ne parleremo. Quindi non parliamo della come si chiama, quella schifezza che mettevi sulla lingua che frizzava. Sì, sì, neanche ne ha voglia se ne parleremo, ma non in questa puntata. Va bene, questo è un po' ecco il calzolaio, perché poi il calzolaio mi ricorda il fatto che ecco forse la vera abitudine che è scomparsa, anche se non completamente, come dice giustamente Carlo, il fatto che si portava a riparare la cosa, quindi l'oggetto, esatto. Quindi le borse. Qua è usato ancora abbastanza. Che questa è una cosa tutto sommato, no, positiva, no, se vai a vedere. Un'altra cosa che in realtà non è proprio una bottega artigianale sparita, ma è un'abitudine commerciale sparita, che mi è venuto in mente adesso, non l'ho messo sul documento perché mi è venuto in mente proprio che un po' ne abbiamo parlato in una puntata di Runtime by Night di Straforo, sono le pellicerie, per esempio. Sì, quelle sono sparite, pellicerie, ma... che sono sparite anche per una maggiore sensibilità, diciamo, a un tema che, esatto, che, sì, che allora no, perché allora comunque bisognava averci la pelliccia, cioè era lo status symbol. Annabella solo a Pavia, Pavia. Sì, sì. Esatto. C'era la pubblicità. Ma mia mamma andava una volta all'anno da Annabella a depositare la pelliccia nel frigo e poi la ritirava. A frigoriferi milanesi andavo io. Sì, c'erano proprio. Noi a Settimo eravamo più vicini a Pavia, quindi andava da Annabella. Da Settimo a Pavia era abbastanza. Quindi si metteva in frigo la cosa, perché sennò faceva i batteri. Che succede? Non lo so, non ne ho la minima idea. Ho questo ricordo. Si deteriorano molto. La pelle, la pelliccia diventa proprio, si secca e perde il pelo, si deteriorava parecchio. Infatti, le pellicce di mia mamma, che poi non sono più andate in frigorifero, le abbiamo poi buttate via perché perdevano il pelo, era proprio, bisognava curarle, perché comunque non era artificiale, era pellicce vera e subisce un po' il tempo se non le tratti correttamente. Sì, mi ricordo che d'estate le portava in frigo e le ritirava poi quando usciva di nuovo l'inverno. Mi ricordo, riguardo alle pellicce, il fatto che non si usino più, a me viene sempre in mente il famoso caso di Mike Bongiorno con la valletta. Paola Barale, era quella prima, comunque quella più piccolina, giovane. Lei a un certo punto ha detto: io le pellicce non le metto perché sono ecologista, e lui l'ha licenziata in tronco, l'ha fatta uscire dalla televisione, cioè non si è più vista poi. Perché era lo sponsor della trasmissione. Era di quello la cosa che, di cui abbiamo parlato a Runtime by Night. Ho fatto sentire lo spezzone di Mike Bongiorno che blasta lì la Elia, che nello specifico, se andiamo a vedere nell'insieme, come ho già detto a suo tempo, il messaggio, diciamo, il concetto ci poteva anche stare. Il problema è che tu sei una cretina, perché quelli lì te stanno a pagare lo stipendio, fondamentalmente. Allora, se non sei d'accordo, non lo fai proprio in principio. Non è che vai lì a prendere i soldi, e poi quando la signora dice la pelliccia non la voglio, brava signora, con Mike Bongiorno, che capirai è nato, cioè, proprio, ma poi lui l'ha insultata in un modo giustificato. Esatto. Comunque la lì era poi pure una cretina, diciamo, c'è pure la verità, insomma. Va bene, dai, ragazzi. Aveva delle qualità. Sì, che era ingenua, dai, cioè, che era buona, cascata nel tranello perché era ingenua, dai. Ma che ingenua, ci faceva pure un po', comunque. Da me molto c'era, in generale, diciamo, ogni blocco di, cioè, ogni parte di quartiere, insomma, almeno un quartiere ce n'aveva almeno due o tre. Era la falegnameria, quella piccola, quella proprio del bottegaio, quello che tu andavi lì e c'era questo che stava sempre a segà, e tu gli ordinavi di aggiustarti il mobile, di sistemarti le cose, oppure ti serviva da fare un comò, te lo faceva, e insomma tutte quelle cose che oggi tu vai da Ikea e allora c'era il tizio che invece te le costruiva, te le preparava o te le allestiva o te le verniciava o te le puliva, te le sistemava, te le restaurava, tra virgolette, anche quando magari c'hai un vecchio mobile che non era più tanto per la quale. Ecco, questa è un'altra di quelle cose che, diciamo, qui a Monterotondo fino a 6-7 anni fa uno ce n'era ancora, però adesso ci hanno aperto un negozio di videogame, quindi che sarà destinato a fallire anche quello, a scomparire domani. Esatto, infatti è stata un'operazione commercialmente lungimirante, oserei dire. Proprio. Invece noi qua a Cinisello, noi ex di Cinisello, avevamo una vicinanza notevole con Monza, che è un polo di mobilieri e di falegname mondiale. Per cui nel mio paese in realtà c'era un falegname, però tu ti spostavi di 2 chilometri nel centro del mobile dell'universo. Esatto. E praticamente non avevi bisogno di andare di trovarti falegname a Cinisello, a meno che ce n'era uno, ripeto, però era proprio due ragazzi e suo padre che facevano questo lavoro, che sopravvivevano, però in realtà nessuno pensava di andare lì, ma veramente ti muovevi, avevi tutti i mobili del pianeta in tutte le salse, ma veramente cioè uno dietro l'altro per chilometri, solo di mobili. In parte è ancora così quella zona lì. Sì. C'è molti quando passi per il vialone, quello lì ne vedi molti chiusi, però diciamo che ce ne sono ancora tanti. Sì. E tutti i mobili che ho preso in casa mia li ho presi lì, ovviamente. Scusa, un secondo soltanto, non c'entra niente, poi dopo ritorniamo. Girasole in chat dice che da lei, dalle sue parti, esiste ancora un negozio con la scritta pellicceria. Allora la domanda che ti faccio, ma è l'insegna come conservazione dell'insegna storica, oppure vendono ancora le pellicce proprio vere? Perché questa è una cosa, cioè fa un po' di differenza, no? Perché magari anch'io, se ci avessi avuto un'attività con la vecchia insegna, e magari comunque una cosa storica, l'avrei tenuta, per dirti. Comunque scusa Carlo, vai. Sai che si paga a tenere le insegne, quindi non è che conviene tanto tenerle, eh? Dipende dal valore, dal valore affettivo. A Roma ci sta un negozio ancora con la scritta Commodore, cioè nel senso è un vecchio negozio della Commodore ufficiale, credo, che ha mantenuto l'insegna vecchia, cioè nel senso faccio una foto, mi risulta che l'anno che è durato fino al 2018, può essere, sì, può essere, sì, può essere pure, non c'è sì. più adesso, ma credo che non ci sia più lui proprio. Sì non c'è più il negozio proprio, esatto, non c'è così. Sì. Però insomma lui fino a che ha potuto si è tenuto l'insegna, cioè. sì fino a che era aperto l'ha tenuta, però ormai è chiuso anche lui. Quello riguardo le falegnamerie, io avevo messo l'asterisco lì, ma è un caso diverso, perché come dice appunto il buon Davide, cioè ci sono delle zone d'Italia, come appunto quella vicino a dove, vicino a Cinisello, che è la zona di Monza, e più che Monza è, com'è che si chiama, Lissone, il paese di Lissone, giusto, Lissone. Lissone, che è il paese del mobile, considerato il paese del mobile, lì era pieno di falegnameria, cioè c'era un abitante una falegnameria, adesso non sarà più un abitante una falegnameria, ma 5 abitanti una falegnameria, per dire. Scusate, quindi c'era anche una scelta della Madonna, e come lì, anche qua nella zona del Bresciano, qua c'è molto artigianato, e era pieno di falegnamerie che facevano mobili. Non ce ne sono ancora più così tante come una volta, ma ne sono rimaste parecchie, quindi qua le falegnamerie, vabbè, ma le falegnamerie in senso così cioè, esistono anche qua, cioè Girasole stessa c'ha la falegnameria, ma il problema, io parlo proprio del falegnametto di quartiere, capito? Cioè, no, quelli non ci sono mai stati, perché c'erano queste già, perché c'erano quelle, infatti vedi, abitavo io zero, non ne ricordo nemmeno uno. Vabbè, sì, questo fa capire quanto poi c'è una grossa differenza anche in queste case, in questi casi, a seconda delle. Però, allora facciamo un flash sempre storico degli anni. Chi si ricorda il grande, perché poi è stato preso in giro in maniera assai sbagliata, Aiazzone? Provare per credere. Io ho comprato Guido Angeli e tutto il resto. Aiazzone, uno dei primi claim pubblicitari famosi in Italia, se lo ricordano tutti, provare per credere. Però Aiazzone io lo inserirei nella parte quella dove parliamo delle catene, perché comunque Aiazzone era, cioè già, no, in senso. Aiazzone sarebbe dovuto divenire Ikea. Il problema è che morì purtroppo in un incidente Giorgio Aiazzone, morì lui. Ebbe un successo incredibile, proprio aveva l'idea che poi ha sfruttato Ikea, che è quella di comprare da tutta una serie di mobilifici e riuscire, grazie all'aiuto delle televisioni commerciali, a vendere. Parlo delle televisioni commerciali perché viene prima chiaramente di internet di Ikea, ma è stata una cosa davvero. Beh, anche qui c'è un discorso molto legato alla regionalità, perché per esempio a Roma c'era la città del mobile Rossetti, e io penso, e da quello che ho capito facendo delle ricerche, comunque Ugo Rossetti, che poi qui si chiamava nonno Ugo, ha lavorato, forse, come posso dire, forse è stato anche un precursore su certe cose, perché ha lavorato totalmente con la televisione, cioè lui aveva creato un mondo pubblicitario che era oltre la pubblicità, perché coinvolgeva proprio la gente anche in maniera culturale, cioè diciamo così, culturale tra virgolette, cioè nel senso che chiaramente era tutto intrattenimento de merda, però comunque alla fine i bambini, cioè, facevano la festa per i bambini, c'era il pagliaccio che regalava i giochi, c'erano tutte queste cose legate tra televisione e negozio e grande magazzino dei mobili, che era quello appunto la città del mobile Rossetti, che oggi è diventato manco mi ricordo, comunque Mondo Convenienza se non mi sbaglio, insomma, quindi roba. La particolarità di Aiazzone è che lui creò syndication, sì, ne abbiamo già parlato, di una serie di televisioni commerciali molto importanti, dove andavano questi programmi con queste persone famose, Guido Angeli, quello che ricordiamo, Provare per Credere, che però andarono in tutta Italia. Sì, sì, ma Aiazzone, infatti, me lo ricordo bene anch'io, in effetti. E poi morì per un incidente aereo mentre stava progettando il raddoppio delle sue attività. Vabbè, ma sono stati gli americani, sono stati. Comunque, apro solo una velocissima parentesi, giusto per ricordare una cosa, parlando di IKEA e sempre di anni 80, nel 1988 aprì la prima sede dell'IKEA in Italia a Cinisello Balsamo, ragazzi, io ve lo dico, ma Cinisello Balsamo è iniziato tutto, è iniziato tutto a Cinisello Balsamo. Comunque Aiazzone ovviamente era nel polo zona lì, secondo me era in zona Lissone o giù di lì, no? Lissone a Biella, diciamo, era nel polo quello lì, ha sfruttato tutti i mobilifici che producevano l'intorno, perché poi c'era il negozio che vendeva i mobili, ma soprattutto c'erano i mobilieri che invece erano dei capannoni che costruivano i mobili che poi venivano venduti nei negozi, ma in realtà lui contattava questi mobilieri che producevano, che costruivano, diciamo, in maniera quasi industriale i mobili, in economia anche. Sì, va detto che lui l'ha fatto 10 anni prima di IKEA, questo è il... Vabbè, sì, lo so, ho ben capito. Ma dillo però, Sai cosa, in Italia ne abbiamo molti, Olivetti e quant'altro, a volte ci dimentichiamo, questo è triste. No, no, vabbè, ma questo... se ricordiamo, lì non finiamo più tra Piaggio e altre cose, voglie, cioè, Vialetti, Simac, ce ne sono da raccontare. La Seleco. Va bene, la Seleco. Zanussi. No, Aselego, ma ricordo che era lo sponsor della Lazio, quindi vabbè, comunque nostro capo, vai, metti ordine. La stessa, c'è il mio rosso. Esatto, la stessa cosa che per me era la questione del falegname, la stessa cosa c'era per il fabbro, cioè nel senso, comunque nei quartieri a Roma c'erano questi piccoli fabbri, così come questi piccoli falegnami, così c'erano i piccoli fabbri che facevano più o meno la stessa cosa, soltanto che chiaramente non con il legno, ma con i metalli, insomma. E mi ricordo anche qui perché c'erano questi rumori che erano, di solito stavano nei, come si chiamano, i seminterrati, no? Quelli là che si vedeva la finestrella dal marciapiede con tutte queste scintille. E questa è una cosa, ecco, altri ricordi, altri flashback, però devo dire, ammetto che dentro il fabbro non ci sono mai entrato, insomma, quindi non è che magari... Io invece dentro il fabbro ci sono nato. Perché è una cosa che l'ho segnata in rosso, perché io sono figlio di 3 generazioni di fabbri. Il mio bisnonno era il Ferré, si chiamava, settimo milanese, quello che il ferraiolo metteva il Ferré, sì, sì. Era il fabbro sulla via Novara, la via per Novara, che ferrava i cavalli che passavano per la via, quando c'erano i cavalli, le carrozze, eccetera, passavano, e c'era il fabbro che si fermava, c'era l'incudine, tirava giù il ferro del cavallo e glieli cambiava i ferri dei cavalli, praticamente il tornitore, ci dice. Faceva proprio il fabbro, quindi il fabbro con la fucina, col ferro che lo riscaldava, col martello che lo batteva, eccetera. Questo era il mio bisnonno. Il mio nonno ha preso in eredità quella bottega di fabbro, ha fatto il fabbro anche lui, ma poi è diventato ferramenta, perché i fabbri poi sono diventati ferramenta. Maniscalco. Nel senso che oltre a lavorare il ferro hanno iniziato a vendere anche tutte le cose di ferro, quindi le viti, i bulloni, le cose, le serrature, tutto il ferramenta. Scusa Piergì, ma il maniscalco non è quello dei cavalli, cioè quello che ferra i cavalli? Sì. Noi si chiamava il Ferré, che poi era fabbro, era la stessa cosa all'epoca. Che sì, no. Ferrava. No, perché giustamente Girasole dice il tornitore, Piergì dice maniscalco, ognuno sta di... E noi era sempre, almeno era il Ferré. Ferré, che è poi diventato il Fabbro. Il Fabbro, mio bisnonno, mio nonno Fabbro Ferramenta, mio papà il negozio di ferramenta, che era ancora nella via Novara, nello stesso punto dove aveva iniziato mio bisnonno, l'ha venduto e ha aperto la carpenteria metallica. Quindi mio padre fece poi l'azienda di carpenteria metallica, quindi ferro, ma sempre più grosso. Faceva per esempio gli scheletri delle macchine che facevano le scarpe, che venivano venduti a Vigevano, che Vigevano è il paese dove facevano le scarpe. Poi sono arrivato io e ho chiuso tutto. Tu volevi computer, non volevi. Comunque io sono nato lì in mezzo, io vivevo sin da piccolo con il rumore del martello che andava sulle incudini, l'odore del ferro tagliato con la fiamma ossidrica, il saldatore, cioè tutte queste cose qua erano, per me era la mia realtà, era quella lì. Cioè io vivevo in mezzo a questi odori, questi rumori, eccetera. E quindi io conosco bene il lavoro del fabbro. Io da piccolo, sia io che mio fratello, in paese ci chiamavamo i figli del ferro, perché eravamo i figli di tre generazioni di fabbri. Sant'Agostino Fabbri a Settimo Milanese erano mio bisnonno, mio nonno e mio papà. Poi invece mio papà, negli anni 80, poi ci fu una grossa crisi della metallurgia, quindi poi vendette l'azienda, poi dopo gli anni è chiusa, e intanto io e mio fratello studiavamo tutt'altro, quindi a me piacevano i computer, quindi è finito tutto, diciamo, quello che era. Piacevano i computer, davvero? No, mai, guarda, io proprio. Che schifo i computer. Vabbè, niente, questo per raccontare che comunque sono rimasti tutti quelli che erano i vecchi negozi di fabbri, sono le ferramenta di adesso, e le ferramenta qua da noi ce ne sono tante, cioè ci sono. Beh, ancora, questa è una cosa abbastanza importante, perché con Diego con Davide ce ne ricorderemo, perché io con Davide e tutti gli altri stiamo mettendo su il borgo dei sopravvissuti, no? Il giorno in cui ci sarà un'apocalisse zombie abbiamo già costruito praticamente le persone che si chiuderanno dentro al borgo che io possiedo, e che giustamente ognuno farà il proprio lavoro. Quindi adesso abbiamo anche il fabbro. Già il fabbro. Esatto, quindi alla fine ci manca quasi più niente, ci manca, insomma, soltanto la difesa militare per ora. No, ci abbiamo anche quella, perché con Leo Vargion, che è un maestro di spada, quindi va bene anche quello, insomma. Vabbè, ma abbiamo anche Tomaiuolo che fa ex esercito. Ah, giusto, è vero. Aeronautica. E vabbè, dai, comunque qualcosa. Vabbè, un addestramento ce l'hai. Qualcosa ce l'avrai. Ci difendi più che me. No, guarda, no, ci sono battute ovunque in cui tu vedi quelli dell'esercito che stanno, e quelli dell'aeronautica che si lamentano perché sono in albergo e non funziona l'aria condizionata. Quindi noi siamo viziati. Vabbè, va bene, io invece voi la parte di sopravvivenza. Ok, va bene. Comunque da noi, anche se fino a qualche anno fa ce n'era una anche a Monterotondo, ammetto la verità, ma io faccio comunque riferimento alla città dove sono nato e cresciuto, che è Roma, dove queste cose poi comunque quando io crescevo sono sparite. C'era la merceria, io non so, poi questo qui entriamo nella differenza terminologica, perché secondo me ogni realtà aveva la sua definizione. La merceria da noi era anche tra virgolette la sartoria, ossia praticamente la merceria vendeva tutta una serie di merci, appunto, legate alle attività manuali, magari, cioè quindi aghi, fili, tessuti, ma non soltanto, anche piccoli attrezzi, insomma, comunque cose che potevano servire all'interno della casa, tra il fai da te o il fatti il vestito da solo, anche perché assolutamente. E i cosi, come si chiamano? I didalini, vi ricordate quei cosi di ferro che si mettevano sul dito, certo, per non rimanere pungicati, la roba dell'uncinetto, l'uovo di legno per riparare il calzino, l'uovo di legno, esatto. Bravo, esatto, sì. I ferri. Ho messo l'asterisco, perché non so come mai, non so dirvi il perché, ma qui dove abito è ancora attualità. Fai conto che si chiamano merceria e sartoria, quindi uguale. Merceria, quindi si chiamano ancora. Bene, fa piacere. Sì, si chiamano ancora merceria. E ce ne sono quattro a Rovato, giusto per dire. Madonna, ma non è che tu vivi spazio temporalmente dislocato, no? Esatto. Non so cosa dirti. Esatto. No, questo non ti so dire perché francamente è solo qua, cioè nella zona del Bresciano. Allora, c'è anche da dire che mia suocera è sarta, fa ancora i vestiti, il vestito da sposa di mia moglie l'ha fatto mia suocera, gliel'ha cucito lei, e mi ha fatto dei vestiti a me ancora, proprio lei direttamente, andando a comprare in merceria i tessuti e ritagliarli col cartamodello e fare il vestito. E qua ce ne sono ancora tante, sia di sarte, sartorie e mercerie. La merceria vende la merce, quindi proprio il tessuto, eccetera. A volte nella merceria trovi anche la sartoria, perché magari ha una sarta di riferimento, o se no c'è la sartoria dove c'è proprio la sarta che fa accorciare i pantaloni, modificare i vestiti, allargare e stringere i vestiti, oppure fare i vestiti su misura. Spesso magari c'è lo stilista, tra virgolette, cioè il sarto, quello più bravo, che è quello che fa il cartamodello. Sì, ok, quello esistono anche a Roma, però sono già cose un po' più, no, nel senso che tu vai lì e te vai a spendere 70 euro per farti fare una camicetta su misura ci sono, è pieno. Ma anche a Milano, per esempio, dove uno degli ultimi uffici che avevo, non quello di adesso che sono in centro, ma un po' di qualche anno fa, che ero in una zona vicino a Città Studi, quindi zona tua, Roberto, e avevamo dietro casa la camiceria sartoria che faceva le camicie su misura, quindi entravi, ti prendeva le misure e ti faceva la camicia. Non so dirti come mai, ma qua ce ne sono ancora parecchie. No, vabbè, comunque il sarto, il sarto, quello che sistema, ripara, cuce, fa, oppure fa le cose su misura, esiste anche qua, cioè nel senso questi ancora esistono. E anche la merceria. È la merceria sartoria che non esiste più, cioè nel senso proprio è sparita, ma a Roma è sparita. Poi io parlo in senso. Dove vanno la sartoria, dove va a comprare? Per esempio da me. Vabbè, oggi è tutto diverso, non è che c'è bisogno della sartoria per andare a comprare le cose, sicuramente c'è una distribuzione diversa. Io francamente adesso, vedendo mia suocera e anche mia figlia come hobby, lei sai che fa l'artistico eccetera, ha come hobby il ricamo, il fare le cose con i tessuti eccetera. È vero che qualcosa glielo compro su Amazon, ormai me lo dice, mi dice questo ago lo trova lì, però molto spesso per prendere dei pezzi va ancora in merceria, cioè non ci sono neanche su Amazon alcune cose, deve andare in merceria a prendere i tessuti, per esempio, o quelle cose. Sì, ma sicuramente diciamo, appunto, come abbiamo detto, in certe realtà, ma non soltanto, secondo me ancora esistono sicuramente queste, è che purtroppo non è più così comune, cioè te lo devi andare a cercare, cioè io se oggi abitassi a Roma dovrei andare a cercare il posto dove c'è la merceria, proprio così come la intendevamo una volta, altrimenti sono dei negozi più grossi dove poi alla fine vendono un po' tutto, cioè, e quindi per esempio i negozi che vendono i prodotti per le case, per la casa, come può essere adesso non me ne viene in mente uno proprio di preciso, però comunque ci sono, che c'è un po' tutto, e se vai a vedere ci sono la parte anche dei tessuti, degli aghi, delle cose, quindi poi alla fine è tutto stato un po' più agglobato, ecco, diciamo proprio il negozio specifico di per sé, quindi la botteghina non esiste più, insomma. Ti cerco le foto su Google e te le mando, si chiamano ancora merceria, non ancora l'insieme. No, ma io so, ma a me mi fa solo che 4 ce ne sono. Mi fa solo che piacere, perché anzi io sono pure contento che esistano ancora, insomma. Ai miei tempi, che ricordi, ce n'era una sola, si chiamava Cesarina, me lo ricordo, anche perché, non so voi, ma tutti i negozi avevano il nome della persona, non era la merceria, vai dalla Cesarina, vai dalla Pina, vai dalla Pinuccia, vai dalla Maria, vai dalla Marianna, cioè c'erano i nomi, non c'era il nome del negozio. Questa merceria mi ricordo che vendeva le cartelle, vendeva le robe della scuola, tutti. Sì, poi dopo sì, anche sì. Poi diventa tipo buffetti, no? Cioè nel senso di... Aveva una cassettiera infinita di bottoni, con tutti i bottoni esistenti sul pianeta, di tutte le forme e colori, e vedeva anche giocattoli, era anche una giocattoleria, pochi, ma aveva anche dei giocattoli, tra l'altro. E poi vedeva piccoli vestiti, le calze, le collant. E adesso, oggi come oggi, io vi dico che dentro almeno a 3-4 centri commerciali dove vado frequentemente c'è dentro una merceria che ripara i pantaloni, accorcia, stringe, modifica, vende i bottoni. Beh, diciamo che nei grossi centri, nelle grosse città ci sono i centri commerciali. Da noi a Monterotondo ancora qualcuno c'è, ecco, prima in chat mi pare Virgilio diceva ci stanno, ma sono gestiti da cinesi. oppure io c'ho per esempio a Montero Tondo c'è un russo, cioè nel senso proprio e cioè, quindi alla fine comunque non è che non ci stanno più, però ecco, diciamo che nell'insieme, a parte appunto realtà come quelle di Carlo, diciamo che so attività che più o meno sono andate un po' scomparendo, anche perché sono state appunto inglobate piuttosto che ci sono delle realtà locali dove comunque c'è ancora quella clientela, dove magari c'è una popolazione più anziana che comunque è abituata ad andare da Sora Lella a comprare l'ago e filo, i bottoni o piuttosto che i straccali, e preferisce andare lì, e qui fino a che c'è questo movimento ancora magari alcune attività, magari perlomeno chi c'ha i negozi di proprietà, no? Cioè chi c'ha le mura, no, e quindi non deve comunque pagare l'affitto o via dicendo, comunque sì, magari se permette di rimanere lì resiste, esatto, lì sì. Resiste, bravo, resiste, ha detto comunque, bene insomma. Anche mia mamma era sarta, tra l'altro, e faceva tutti i vestiti, se li faceva lei per lei, e faceva anche i vestiti per noi, perché comunque noi eravamo tutti fuori misura, e fuori misura i negozi tipo taglie forti, taglie grandi sono cominciati solo a apparire negli anni, diciamo, 80 avanzati, no? Però negli anni 70, se eri un 4XL, ti attaccavi al tram. C'era mia mamma che faceva i vestiti per noi. Sì. Vabbè, non è che adesso è cambiato tanto da questo punto di vista. Insomma. Beh, no, adesso si trovano facilmente, perché io li trovo facilmente vestiti 4XL, 5XL, perché far arrivare un vestito americano qua è questione di poco, mentre invece una volta in America ci saranno anche stati, ma qua in Italia ciccia. Comunque esisteva un negozio a Bresso che si chiamava Raponi, che esiste ancora, che si chiamava Scampoli, che vendeva solo tessuti, aveva veramente un come supermercato di solo tessuti rotoloni, dove tu entravi, prendevi il tuo metro di tessuto, sceglievi tu il colore, mia mamma andava lì, prendeva, mi faceva scegliere cosa volevo, prendevo il mio pezzo di tessuto e lei mi faceva una camicia, mi faceva una maglia, mi faceva quello che volevo. E lei era brava con la macchina da cucire, tutto il giorno riparava tutto, non c'era bisogno di andare da Sarto nella casa nostra, mia mamma faceva tutto e riparava tutto. Beh, io c'avevo la mamma di un mio amico che faceva la costumista Rai, quindi per un sacco di tempo i vestiti. E a proposito, quanti, chi abitava in centri, in grossi casermoni come abitavo io, quante persone che c'erano che io faccio la sarta, la parrucchiera, riparo le cose, sistemo questo. Non si andava nei negozi, addirittura si andava dal vicino di casa che era bravo a riparare le scarpe, e non andavi da chi ti riparava le scarpe, perché c'era quello che faceva il lavoro artigianale in casa. C'era la parrucchiera nel mio palazzo, c'era uno che tagliava i capelli. Sì, sì, è vero, pure questa cosa c'era. Un po' c'era. Io faccio fatica, devo dire la verità, e mi auguro sempre di non incontrare una donna o una ragazza che mi dice faccio la sarta, perché mi verrebbe da dire, perché a Roma la sarta è una che sarta, insomma, non so se avete capito il senso. E ho capito adesso. E ok, quindi fa sempre un po' ridere. Ciao, faccio la sarta, a me mi verrebbe da ridere, cioè nel senso proprio sarebbe una cosa... Mia suocera dice così, cioè, no, non so, vabbè, ma perché non... mia mamma era una sarta perché lì non usate la R come la usiamo a Roma, insomma, cioè, nel senso... comunque qui secondo me ritorniamo un po' a quello che diceva prima anche sempre Carlo, quando come si chiamavano i prestinè. Sì. Cioè nel senso tu dicevi che sono quei market in italiese... Vai, scusa. In italiese prestinare. Che erano quelli che vendevano, diciamo, generi alimentari, pane. Fondamentalmente. Allora, erano originariamente solo il pane. Poi dopo, già da subito, comunque al prestinaio, tu andavi a prendere il pane, ma trovavi anche il latte, i biscotti, le patatine, la pasta, le cose che ti servivano urgenti. Anche se in realtà c'era anche la drogheria. Se tu vuoi introdurre questo, ok, esatto. Le drogherie c'erano. Allora a Roma, insomma, nel Lazio in generale, poi non so se questa cosa si è estesa, si chiamano norcinerie. Ma c'è anche un motivo, anche storico, perché gli abitanti di Norcia erano quelli che conciavano la carne di maiale, che comunque sapevano lavorare il maiale. Quindi le norcinerie a Roma erano i negozi dei prevalentemente delle persone che venivano da Norcia e dintorni, che aprivano queste attività commerciali e vendevano appunto la carne di maiale trattata, speziata e via dicendo. E da lì in poi c'era anche l'estensione al fatto delle spezie, quindi sali, pepi e tutte le cose. Mi è venuto in mente come si chiamavano da noi. E da lì la salumeria. Esatto, sì, più o meno la salumeria. Però la norcineria era particolare, perché la norcineria non c'aveva quell'odore di salume che c'aveva comunque le salumerie, c'aveva proprio quell'odore di spezie incredibile, cioè proprio il pepe da macinare, cioè c'era proprio la spezia pura, capito? Dove tu andavi lì e compravi i sacchetti di spezie, oppure compravi la carne, oppure poi ovviamente piano piano se so anche inseriti anche gli altri generi alimentari in generale. Infatti da noi poi si chiamavano le drogherie, cioè nel senso là dove andavi a comprare poi ovviamente le spezie, le cose. Però la norcineria era carino perché era proprio tipico, insomma, diciamo, del centro Italia, ecco, cioè la norcineria è una cosa proprio tipica del centro Italia, che poi ovviamente secondo me negli altri posti si chiamava in altre maniere, come diceva appunto Carlo prima. Però poi il termine drogheria in particolare era figo, perché poi in realtà quando ero ragazzino io, ancora pochissimi, ma ancora c'erano quei negozi, quindi quelle attività che vendevano, diciamo, per drogheria si intende anche, non dico farmaci, ma qualcosa di simile, quindi c'è, cioè, nel senso, cioè, dalla spezia al prodotto da farmacia c'era un po' di tutto dentro, insomma. E invece le norcinerie appunto erano più salumerie, e poi vabbè, cioè, c'erano un po' fuse queste cose. Però queste erano proprio attività commerciali che tu non soltanto erano molto particolari, ma le riconoscevi proprio, cioè nel senso, tu quando ti avvicinavi era impossibile che non entravi e ti compravi il caffè, il pepe o le cose, capito? Che poi andavi a casa e te le macinavi bello fresco con tutti questi aromi incredibili che ti portavi dietro, e che oggi praticamente sì. Se le andiamo a cercare, li troviamo, però è un po' più è diverso, insomma. Nel mio caso specifico era una realtà forse un po' diversa. Io avevo tutta una serie di attività abbastanza distinte. Io avevo il salumiere che vendeva i salumi, avevo il macellaio che vendeva le carni, avevo il droghiere che era, la chiamavamo drogheria, ma era una sorta di mini market che non vendeva salumi, però. Per esempio, non vendeva carni, non vendeva, avrà venduto probabilmente spezie sicuramente, ma non era tanto quello il suo mercato. Il suo mercato era quasi un mini market. Poi c'erano le rosticcerie che vendevano i prodotti invece già da pronti da mangiare. Poi in realtà poi noi avevamo, a un certo punto questi negozi partivano come panettieri per vendere pane, come diceva prima Carlo, ma subito dopo ho cominciato a vendere un po' di tutto e diventavano quasi dei mini market, fino ad arrivare a vendere i salumi e diventare sostanzialmente delle salumerie, panetterie, drogherie. Eh sì, dai, poi alla fine sono diventati i mini market. Quindi proprio, esatto. Se proprio uno voleva andare a vedere, poi alla fine è diventato il mini market, insomma, sì. Quelli che trovi quando vai in località turistiche, per esempio vai in vacanza, il combini il combini, ok, quello in Giappone, vabbè, però no, per capirsi, turistiche e in appartamento, e devi cercare i mini market che trovi spesso nelle località turistiche, sono quelli che una volta per me erano le drogherie quasi, sì. A parte che vendono magari anche i canotti, gli ombrelloni e la frutta e la verdura. Vabbè, oggi ci sono i negozi dei cinesi che vendono un po' di tutto tranne la roba alimentare, a meno che non stiamo parlando delle robe liofilizzate, quindi che ne so, i ramen istantanei, queste cose qui. Se no poi ci sono i Bangla praticamente, cioè nel senso, comunque tutti i negozi degli indiani e dei Bangladesh che alla fine sono quei mini market, c'erano una volta, solo che senza il fresco, cioè nel senso senza la salumeria o via dicendo. Invece per esempio a Grottaferrata, qui a Roma Sud, praticamente Castelli Romani, ancora in alcuni posti il mini market con la salumeria dentro esiste ancora, se no esiste il macellaio, cioè proprio, ecco, proprio il classico macellaio, se no poi oramai ci sono i supermercati, cioè fondamentalmente un po' è quello, cioè non è che non esistono più certe professioni o certe attività. Diciamo che è stato un po' tutto inglobato, diciamo, dalle cose più grosse, ecco, tutto questo, insomma. Poi non so, Carlo e Roberto. Vabbè, io la drogheria, il negozio salumiere eccetera, me lo ricordo quando ero piccolo, poi sono scomparsi. Diciamo che negli ultimi anni sono ricomparsi, tra virgolette, nel senso che le macellerie che sono rimaste, le rosticcerie, come si chiamano, i negozi di alimentari generici, e sono rimasti e sopravvivono in certe zone, cioè non più tanto come una volta, ma ci sono. Cioè adesso c'è ancora il macellaio, dove però magari vai dentro, in macelleria trovi anche la rosticceria, trovi il salumiere, cioè trovi la drogheria, più o meno il piccolo negozio che vende un po' di tutto in alcuni centri, in alcuni posti, soprattutto nei posti turistici ci sono sempre, nei esatto, vari posti turistici li trovi sempre, e anche nei paesi piccoli almeno uno da qualche parte c'è, perché è il riferimento delle persone anziane, soprattutto, che magari non riescono ad andare al supermercato, esatto. eccetera, fare la crossa. Io lo ricorderò sempre, lo ricordo ancora, perché quando vado magari sto in giro e ci sono magari quelle piccole realtà dove c'è il mini market, la drogheria, roba del genere, vai dentro e te fai far panino, cioè mi fa il panino con la mortadella. Sì, no, vero, fanno. Quindi sì, sta cosa, Piergi, in chat, una volta ci si faceva fare i panini, sì, ma anche adesso. A me mi capita, devo dire. Nei piccoli centri lo fanno. Sì, lo fanno. Davide, se tu vai in paese e vai nella macelleria e gli chiedi di farti i panini, te li fanno. Quando andiamo in gita al lago d'estate, io con mia moglie e i miei figli ci fermiamo magari dal mini market qua del paese, dal macellaio, salumiere, e ci facciamo fare i panini e poi partiamo. Vabbè, poi oggi ci sono. Da noi ci sono i porchettari, no? Cioè quelli che vendono, cioè i truck praticamente parcheggiati ai bordi delle strade, ma quelli pure sono sempre esistiti, insomma, da che ho memoria. Piergi dice in chat: io ogni anno, ancora adesso, con un mio amico faccio su il maiale, cioè pago un norcino. Sì, certo. Pago un norcino per fare i salumi. Vabbè, interessante, vedi. Vabbè, è un'usanza che è rimasta anche qua nei paesi. Mio suocero lo fa ancora, ma anche altri pagano il maiale, cioè comprano proprio la bestia e la fanno insaccata, in mano a un macellaio, eccetera, che poi fa i vari insaccati. Confermo perché io sono di Parma e praticamente a Parma questa è un'abitudine normalissima, proprio tutti i miei parenti hanno il maiale e si fanno produrre tutti i salumi del caso. Ok. Esatto. Tu Roberto invece delle drogherie, ma tu facevi il signore da ragazzino. No, sono distratto perché sto ricevendo decine di messaggi per della roba che abbiamo pubblicato oggi, di cui Carlo. No, hai pubblicato, specifichiamo. Ah, io ti avevo detto di non farlo, vedi. E questo ti rende molto partecipe nella trasmissione, insomma. Sono partecipe. Non riesco a. Comunque, io. No, non ho esperienze di particolari di drogheria, a parte quelle che vi ho detto. Io ho il supermercato fin da piccolo, figurati. Era rionale, non era quelli grossi, però ce l'avevamo. C'era una parte supermercato e una parte con tutte le botteghe, ma ben organizzata, una a fianco all'altro. Quindi c'era tutto, il macellaio, il droghiere e quant'altro, da questo punto di vista. La cosa che magari, se vogliamo andare un attimino avanti, che mi piace ricordare, che era diversa, c'è ancora, sebbene molto di meno, ma era diversa, era l'edicola. L'avevo detto, infatti. Vabbè, ok, vai. Motivi evidenti, perché ormai, voglio dire, l'editoria è in crisi totale, qui forse magari Carlo ne sa anche di più, però per quanto riguarda la mia esperienza, io andavo spessissimo in edicola, era veramente la fonte di informazione, di divertimento, quindi non so, c'erano le riviste sportive, le riviste di computer, i fumetti, cioè i giornalisti zozzi, sì, anche altre cose che sono, è ancora presto, sono le 22:43, dopo le 11 possiamo dire, cioè c'erano tante cose che compravamo, ed ero anche, andavamo tutti all'edicola, tutti i miei amici ci ritrovavamo lì, ci scambiavamo le riviste, quindi era una cosa importante. Gli edicolanti facevano un sacco di soldi, io ne ricordo alcuni, quello che usavo io vicino a casa mia, c'erano poi alcuni molto noti a Milano, veramente, veramente enormi. C'erano alcuni con le riviste, questo in centro con tutte le riviste internazionali. Sì. MacArco in San Babila. Sì, esatto. Si andava a Milano per le riviste straniere. MacArco in San Babila aveva tutte le riviste straniere, era un'edicola gigantesca. Da noi si chiamava il giornalaio. Sì. Sì. Quindi era un punto che adesso ormai, cioè, cerca di vendere qualunque cosa, perché chi compra più riviste? Cioè, beh, ma sì, infatti, no, secondo me il giornalaio, l'edicola in generale si è estesa, nel senso che oramai anche lì vende cose che sono più o meno annesse, anche perché secondo me, come dicevamo, proprio neanche nell'editoria, oramai tramite il giornalaio si vendono cose che una volta non si vendevano, diciamo così. E però, ecco, una volta era molto più concentrato su quel tipo di cose, ma quel tipo di cose andavano, perché comunque le riviste si compravano, i giornali si compravano, quindi... Ma infatti ce n'erano tantissime, adesso sono quasi scomparse. Quasi scomparse. Sì. È una specie in via di estinzione. Cioè, l'edicola c'è ancora, ma una volta in un paese ce n'erano 15, adesso ce ne sono due. Forse. Sì, sì, è vero, una. È vero. Beh, qui a Monterotondo ce ne sono due, per esempio. I centri commerciali li hanno tolte, non ci sono più. Poi nel centro commerciale, una volta c'erano le edicole, non ci sono più. Adesso nel centro commerciale i giornali li trovi dentro al supermercato. Ma anche le librerie non è che faranno fra poco una fine tanto diversa. Già lo stanno facendo, perché comunque... Sì, le librerie storiche di Brescia hanno chiuso tutto. Ma pure a Milano, pure a Roma, cioè, meno male, ho visto che pure le Feltrinelli chiudono, quindi figurati, insomma. Diciamo che rimangono con uno stock molto piccolo. Questa è una cosa che si nota, ormai i negozi, come eravamo abituati noi, con stock enormi, adesso magari prenderemo dei dettagli perché ho visto nella lista che ce ne sono diversi, praticamente non esistono più, nel senso che tutti hanno ridotto di molto le dimensioni, hanno un assortimento molto ridotto, se ti serve qualcosa ormai lo sanno anche loro che te lo vai a comprare online, o molto spesso... tu vai nel negozio, vedi qualcosa e te lo ordini online, perché questa è la verità, adesso è inutile nasconderci. Rimane lì, come posso dire, l'acquisto di impulso, che lo vedi lì, vabbè, la differenza è poca, allora magari te lo compri pure, però è ovvio che tutte queste catene che vendono tutte queste cose, quindi vale per, l'abbiamo detto, per i giornali, vale per i giocattoli di cui magari parliamo, vale per l'elettronica, vale per tutto, non si possono più mantenere con quei grossi centri commerciali come eravamo abituati noi. Ah beh, ma sì, infatti questo è uno dei passaggi epocali più importanti, che nel bene o nel male, no? Alla fine è quello che sono le conseguenze di beh, infatti non c'è bene o male, sai, io su questo questa volta sono d'accordo con Carlo, che penso che lo dirà. Fa parte dell'evoluzione, sì, infatti. Bene o male è un discorso che sai. Diciamo che più che una questione di bene o male è un peccato, perché allora secondo me su determinate attività si perde anche un po' la tradizione, no? Cioè comunque l'apprendimento di un mestiere che poi magari nella vita potrebbe anche non servirti, però il fatto di non saper fare più le cose è un po'... Secondo me questo è un po' un peccato, no? Però è chiaro che non è un valore assoluto sta cosa. Sul fatto che sia anche giusto, più o meno, insomma, fa parte dell'evoluzione delle cose. Questo è. Non questo è giusto, né sbagliato, perché non si fanno più quelle cose, magari se ne faranno delle altre. No, infatti, sicuramente. Abbiamo visto tutti, non so com'era. Quel telefilm dove c'era quella che lei faceva la libraia, che il cattivo gli fa chiudere la libreria per aprire il grande centro commerciale. Adesso, c'è posta per te il film. Mai visto, grazie a Dio, insomma. Io non l'ho mai visto, quindi non guardare, però se uno ci riflette bene, allora anch'io, per carità, sono nostalgico, io adoro le librerie, ci sono cresciuto. Ed è la prima cosa che vado a vedere in qualsiasi città sono. Io passo, qui a Vicenza abbiamo librerie di libri usati, è il primo posto dove vado, l'unico forse posto dove vado, quindi per me è male. Ma chi lo dice che non puoi fare anche, trovare delle cose, fare delle ricerche, trovare dei club con cui discutere di queste cose anche online? Anzi, in teoria l'online potrebbe anche ingrandire gli orizzonti, per cui io sono convinto che se si vuole essere onesti, ripeto, non c'è bene o male, non siamo in grado di dirlo, è semplicemente noi che siamo vecchi, e qui ha ragione Carlo, probabilmente mi spiace dirlo, però quindi abbiamo difficoltà ad adattarci. Ma io, sì, vabbè, almeno io, diciamo che nello specifico, cioè se io penso alla norcineria, non è una questione di che sono vecchio e non mi adatto, penso che sia un peccato che spariscano determinati mestieri, questo dico. Poi non per questo dico che sia una cosa terribile, oddio non sopravviveremo a questa cosa, che schifo di mondo che stiamo diventando, insomma. Questo è un po' il discorso. Comunque, qualcuno qui ha scritto fruttivendoli. Chi è che l'ha scritto? Tra l'altro, l'ho scritto perché è un'attività che, almeno dalle mie parti, non so, probabilmente nelle vostre no, ma nella mia. No, qui siamo pieni di fruttivendoli, sia... proprio. No, anzi, qui sono in aumento perché c'è la moda del bio. Sociali. Anche qua, guarda che a Milano ne stanno aprendo. Sì, ma fate parlare a Davide che ancora stava sotto e faceva. No, stavo dicendo che da me non esiste più un fruttivendolo. Se ce n'è uno è praticamente un'orificeria. Praticamente compri la roba che costa 10 volte quello che costa in qualsiasi altro posto. Vabbè, questo però è normale che sia così, eh. Cioè, E fallo parlare però, che fai? Prima fai il... Sì, ma voi parlavate sopra, io ho aspettato che finisse. No, è l'unico che conosco qua nei dintorni è un'orificeria. Poi direi che sono... La frutta io ormai penso che sia da... forse 15 anni che la compro nei centri commerciali, non la compro più da un fruttivendolo, quindi per me non esiste più il fruttivendolo. Vabbè, magari ecco, forse è più la tua esperienza. Da noi è pieno, esatto. E sono aperti pure 24 ore addirittura, infatti mi domando, cioè nel senso, che cazzo sta a fa aperto a mezzanotte il fruttivendolo? Secondo me ci spaccia qualcosa, non lo so. Però, da me è pieno, ha ragione, sì. Davide, ha ragione totalmente, cioè sono diventati delle gioiellerie, ma perché questa è la moda, ormai sono tutti bio, super bio, bio qua, bio là, che poi io andrei a verificare se veramente tutti lo sono. Però... Vabbè, io farei la verifica al contrario, cioè nel senso il problema è che tu vai a comprare una cosa di cui teoricamente arriva magari dal territorio, piuttosto che da quello che vai a comprare al supermercato che non si sa da dove arriva, cioè nel senso, cioè, è chiaro che al supermercato le cose le paghi di meno, cioè è ovvio, quindi fai una scelta anche... La differenza si sente, almeno io... Io la noto molto, perché noi compriamo, io compro dal bio e la differenza la senti. La senti, sì che la senti, grazie, qua, certo, infatti è quella la cosa qua, che... Devo dire che forse perché siamo ancora in campagna è pieno di fruttivendoli anche qui, e non solo, da noi, almeno qui proprio dove abito io, siamo abituati che c'è quello col camion che gira anche sotto, sì, casa, ti suona e tu esci e compri la frutta, sì, da natura, sì. Questo è un po' più raro, però qualcuno due volte alla settimana passa da noi. Qualcuno, sai cosa mi hai fatto, sì, venire in mente? Ve lo ricordate cos'era? L'arrotino. Sì, quello c'è ancora. Donne, allora io l'ho messo tra le attività ambulanti come arrotino, ombrellaio e riparatore di cucine a gas, perché poi c'era oppure... c'è ancora anche da questi ci stanno, questi ci stanno. Diciamo, da noi l'arrotino è prevalentemente uno straniero. E va bene, questo ci potrebbe anche stare. Io non lo so. Però il riparatore vengono quelli che prendono il ferro, cioè prendono i robi vecchi. Quindi, mamma mia, ragazzi, io non l'ho più visti quelli. No, io l'arrotino lo vedo ancora e sono italiani. L'ombrellaio, invece, devo dire la verità, quello è completamente scomparso. L'ombrellaio non l'ho più visto manco io. Che lo ripara, no? Sì, erano gli arrotini. No, da noi l'arrotino riparava ombrelli. Donne, è arrivato l'arrotino, riparo riparo cucino a gas, ombrellaio. Hai ragione, Roberto, abbiamo fatto break musicale. Vedi, Napo Orso Capo, cioè metti un break musicale. Oh, Napo Orso Capo, io dici a qualcun altro, capito? Perché io vengo là e faccio la sarta poi dopo. e tesarto esatto. Tesarto sopra. Ma guarda, io metto proprio il brano un brano, poi c'è in realtà qualche secondo, insomma, del brano di proprio di Roberto. Lo vuoi introdurre? Dopo vai, parti, facciamo una sorpresa al pubblico. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. piri piri piri piri piri piri piri. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. Pi piri piri piri pi pi pi piri piri piri piri pi pi piri piri. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista. Bene, Giorgio Gaber è uno di quegli artisti che nella mia vita ho sempre trovato geniali nel modo in cui faceva le sue canzoni, belle, sempre tutte molto belle, molto acuto, grande osservatore, ma ho sempre guardato con diffidenza, perché non diffido sempre delle persone di cui non sai come la vede, e questo un po' è un mio modo di fare. Poi vabbè, chiaramente Roberto avrà delle opinioni diverse, perché magari ha una maggiore conoscenza, insomma, del personaggio. Allora, ho una storia con Giorgio Gaber un po' particolare, perché l'ho conosciuto da ragazzino, perché sua cugina era la mia vicina di casa, dico era perché purtroppo non c'è più, e ogni tanto l'ho incontrato. Io andavo spesso a casa di, andavo a giocare a scacchi, penso un po' quanto ero nerd anch'io, con il figlio di questa donna, e ogni tanto passava lui con la moglie Ombretta Colli, e all'epoca chiaramente non avevo minimamente idea di chi fossero, troppo piccolo per rendermene conto, però vedevo questo strano signore che ho scoperto dopo, cresciuto. È una persona particolare. La canzone che abbiamo ascoltato si chiama Il Conformista, è una delle più famose, ma ce n'è diverse. Lui ha inventato un vero e proprio stile che si chiama teatro canzone. Infatti lui faceva degli spettacoli dove poi suonava queste canzoni con dei collaboratori di eccezione. Il suo batterista molto spesso era Tullio De Piscopo, cioè non... e anche gli altri, insomma, facevano a gara per andare ad esibirsi con lui. In realtà è molto facile definire, lo ha detto, ma si comprende se lo ascolto un po'. Giorgio Gaber era di sinistra, non è che c'è un grosso dubbio, però era fortemente critico. Non tutti sono della stessa opinione, questo è un po' il discorso. Comunque, vabbè. Ma il problema è che molti, non è la trasmissione sulla musica né su questo, sulla politica, sulla politica. Lui riteneva che la sinistra avesse tradito gli ideali, e te lo dice uno che non è di sinistra, io non lo sono, però lui riteneva che la sinistra avesse tradito gli ideali di sinistra, come ha detto un regista forse troppo pompato, Nanni Moretti. Che cos'è la sinistra? Esatto. La sinistra non fa la sinistra in Italia. Lui quindi era fortemente critico della sinistra. Comunque, a prescindere dalla politica, invito tutti a riscoprirlo. È purtroppo poco noto fra le generazioni più giovani ed è un male. Io vi invito ad ascoltarlo, a leggere i suoi testi, e vedrete che c'è di tutto. Ad esempio, ascoltate, se vi capita, Far finta di essere sani, che è bellissima, o altre canzoni che lui ha fatto, come quella su Dio e su altre cose, che insomma vale la pena di ascoltare. Benissimo, torniamo in bomba, perché so che voi adesso mi direte: no, da me ancora ci sta il riparatore elettrico, radio, TV, antennista, tecnico e venditore. Tra l'altro, perché a Monterotondo ce n'era ancora uno fino a un po' di tempo fa, anche in tempi recenti, però il problema non è tanto il fatto che è cambiato proprio il tipo di professione. Questi alla fine facevano questo, cioè erano il negozietto del riparatore delle televisioni o quello che ti veniva a montare l'antenna, perché insomma chiaramente oggi tutto viene già preinstallato, diciamo, quando compri una casa. Però questa è una cosa che è completamente sparita, ma è sparita anche perché tecnicamente oggi non c'è neanche senso, no? Cioè è cambiata la tecnologia in maniera tale che queste figure sono le prime a essere zompate. Diciamo, se proprio devo dire che esiste ancora un riparatore, è quello che ti viene a riparare la lavatrice, che di solito non ti ripara la lavatrice ma ti leva il calzino che sei andato a incastrare e tu non lo sai, cioè nel senso... Quindi... Oppure ti sostituisce una scheda elettronica o un motore. Sì, sì, che poi anche quelli ormai te li chiamano direttamente le fabbriche che ti hanno venduto la lavatrice. O, Sì. Non esiste più il negozietto riparatore. Esatto. Io sono in alcuni gruppi dove ci sono queste persone che ancora vogliono riparare su Facebook, eccetera. E ci sono persone che adesso per riparare una televisione, una volta si diceva ma è lo schema, ma questo integrato, sto transistor, adesso cominciano, ma per caricare il firmware, per aggiornare, ma per cambiare la memoria, adesso cominciano a parlare più di, sono diventati dei mezzi computer praticamente le televisioni, e bisogna avere competenze. Togli i mezzi, esatto. Sono dei computer veri, sono praticamente dei computer, bisogna avere più competenze informatiche / firmware / programmatori, come caricare le robe, più che andare a cercare un difetto, perché comunque tanto se si rompe una scheda il pezzo di ricambio ma è questo che dicevo, tecnicamente oggi non c'ha proprio senso in generale se rompe la a me. Io c'ho una Panasonic al plasma e c'aveva un difetto suo proprio specifico di quel televisore lì, e anche se dopo qualche anno si è presentato quel tipo di difetto lì, è venuto il tizio, proprio mandato dalla casa, l'hanno sistemata e arrivederci, anzi se la sono venuta a prendere, l'hanno sistemata e ce l'hanno riportata. Quindi detto questo, ma in generale comunque un qualsiasi difetto o problema è più economico ricomprare l'oggetto che ripararlo, ma questo in generale perché è proprio la tecnologia che oggi è costruita in funzione di questo. Che sia poi uno spreco, perché poi alla fine in certi casi è veramente uno spreco, ci sta, insomma. Lo so, però in effetti può diventare costoso davvero cercare di riparare delle schede che tecnologicamente sono realizzate in una maniera molto complessa, servono strumentazioni e competenze così elevate che potrebbe non convenire davvero. Sì, poi diciamo che il televisore, il tecnico del televisore era quel televisore a tubo catodico, era... diciamo tecnicamente e elettronicamente meno complesso di quanto poi ovviamente siano poi queste opere di ingegneria che sono basate. Ma anche una questione di costi, adesso i costi sono talmente bassi appunto. Che non conviene più, cioè una volta comunque il televisore era un oggetto costoso, cioè in casa prima di comprarti il televisore c'era la spesa, non dico che era la macchina, c'erano le cambiali. Si comprava con le cambiali, veramente tanto, e che ti conveniva ripararla. Adesso ma adesso molte cose non sono riparabili indipendentemente da quanto tu ci voglia spendere, cioè le nuove schede madri con quel tipo di processori ultramoderni non sono riparabili, ragazzi. Davide Gatti le ripara, però i cinesi riparano tutto, per esempio le robe di una complessità allucinante, perché loro hanno un costo, cioè per loro metterci 3 ore per togliere un chip e sostituirlo è un costo pari a zero. Lo fanno fare i bambini sotto costo. Cioè, togli tutto. Rob, non ti preoccupare. C'è gente che sta adesso in Cina, stanno già espandendo gli M1 della Apple che tu compri da 128 giga e te li convertono a 256, smontando i chip sopra i chip sopra i chip. Cioè delle robe che quando li vedi dici ma come cazzo. il cinese lo fa perché costa 10 euro per lui fare quel lavoro. Perché lo fa fare al bambino cinese addestrato a fare quelle cose lì, e che gli danno una ciotola di riso, esatto. E finisce là, insomma. Comunque sul riparatore elettronico c'è che una volta era l'antenista riparatore TV eccetera, c'ho un divertente aneddoto, vabbè, ma giusto così per dirlo. Mio papà è originario di Settimo Milanese, no? È proprio del paese dove sono nato e vissuto. si chiama, io mi chiamo Sant'Agostino, il cognome Sant'Agostino a Settimo era un cognome, è un cognome diffusissimo, fai conto c'erano quattro pagine dell'elenco del telefono, e a Settimo c'era mio papà che era il fabbro, come vi ho già detto, fabbro, ferre eccetera, mio nonno e mio bisnonno Sant'Agostino, il negozio di elettronica di elettricista, riparatore, antennista Sant'Agostino, e il negozio di biciclette Sant'Agostino. Quindi quando dice vai dal Sant'Agostino, uno ti chiede ma dove vado, quello delle biciclette, quel fabbro o il... E lui dice nel contesto vai con la bici da Sant'Agostino, vai, esatto, a fare la bici da Sant'Agostino, lo sapevi, esatto, dove andare, esatto. E erano tutti, vedi, quello delle biciclette c'era scritto Sant'Agostino dell'insegna, come dicevi tu appunto prima, esatto. Mio papà si chiamava Sant'Agostino Carpenteria Metallica e poi c'era l'elettricista Sant'Agostino. Sì, che poi era un'abitudine quella di mettere i nomi nelle insegne, esatto, dei negozi, quindi sì, sì. Poi li chiamavi col nome, per me sì, andare dalla Cesarina voleva andare, dire andare in merceria, andare dalla Pina era andare in latteria, e quindi si andava a nomi, erano momenti così. Comunque sui riparatori, no scusa, cosa volevo dire? Sì, sui riparatori ci ho fatto un episodio di un podcast, Riparatore TV, no? Parlavo di anni 60, anni 70, quando i riparatori TV venivano in casa tua a riparare la roba, non è che certo, portavi la TV a riparare. No, certo, certo. Anche perché va la porta via la televisione, insomma. Me lo ricordo ancora io, quando veniva con le valvole. La valigia magica e avevano 3000 valvole, eccetera, poi aprivano il TV, toglievano una valvola, ne mettevano un'altra e ripartiva. Io ero un ragazzino, non sapevo niente, vedevo questi qua, e un giorno si è rotta la TV e mi sono messo a prendere, a aprirla, a tirare fuori le valvole, cambiarle, girarle, ho fatto un po' di robe. E devo dire che mi è andata di culo che una volta una roba sono riuscito a sistemarla, ma non sapevo cosa avevo fatto. Io ho cambiato una valvola, ne ho messa un'altra uguale, presa da un altro TV, è ripartita, basta, sono diventato un riparatore. Pier G in chat ci dice che invece due ragazzi dalle parti sue hanno messo su un negozio di riparatutto, cambiano le batterie e schermi dei cellulari, sì, aggiustano i frigo, lavatrici e roba elettrica. Elettronica, ma cioè, in allora, generale, allora diciamo sul discorso delle batterie dello schermo, ok, ce ne sono diversi anche qui a Monterotondo, tutti cinesi, quelli non tutti sì, cinesi, poi magari dietro c'è il cinese, io non lo so, però ci sono anche i cinesi. In realtà anche il frigo secondo me oggi è un po' alla stregua del televisore, anche se un po' di meno, perché comunque secondo me il compressore magari del, cioè nel senso, comunque la cosa che fa funzionare il frigo ancora è, non dico artigianale, ma insomma il meccanismo è, penso, riparabile. Esatto, sì, ancora quello. Un frigo riparabile. Però, per esempio, i frighi, quelli smart col mega display da Samsung che te fanno, cioè già lì, capito, no? Nel senso, entri in un ambito che comincia a diventare un po' più complesso e quindi bisogna essere un po' più specifici. Però, ecco, la lavatrice e il frigo, secondo me, ancora sono due cose, lo scaldabagno. Se c'è ancora qualcuno che c'ha lo scaldabagno lo a casa. Sì, sì, sì. Scaldabagno a gas io ce l'ho, fa anche riscaldamento, e quindi quello no, quello lo riparo. No, quella è la caldaia, quella che dici tu. No, tu quella è la Ma a me fa anche da scaldabagno. Vabbè, la caldaia fa da scaldabagno, però lo scaldabagno io intendo proprio quello vecchio, quello elettrico, cioè quello che andava a corrente. Boiler, no, il boiler non l'ho mai avuto, il boiler, però ho sempre avuto lo scaldabagno solo per scaldare l'acqua, okay, dove abitavo a Cinisello, c'era lo scaldabagno solo per l'acqua. Mi sa che a Roma il boiler lo chiamano scaldabagno. Lo scaldabagno, esatto, bravo. Esatto, sì, da noi lo scaldabagno è quello che tu chiami il boiler, esatto. Sì, dipende se hai acqua, tanto per dire, dipende da mille motivi, si può usare ancora. Sì, sì, no, si usa dove lo hai un utilizzo molto modesto, anche noi al lavoro dove lavoro l'acqua calda si usa pochissimo, c'è il boiler elettrico. No, qui da quando ci quando c'è la caldaia a gas, lo scaldabagno a casa ce l'abbiamo, ma non funziona più, cioè funziona tutto tramite la caldaia, quindi non c'ha manco più senso. Sì, sì, insomma. Sì. Diciamo che se lo usi in emergenza, il giorno in cui te va in blocco la caldaia per qualche ragione. Ecco, adesso poi è nuova, ci abbiamo noi, quindi proprio scaldabagno penso che se l'accendo comincia a fare il boiler elettrico, ovviamente non ha senso ripararlo, è un barattolo di ferro con dentro una resistenza, esatto, quello si ripara da solo, costa tipo, Mentre invece gli scaldamani a gas o le caldaie a gas, quelle tutto adesso ci sono i negozi, l'assistenza e tutto. Ma lì pure una questione di legge lì, esatto, non è che ci puoi mettere mano dentro, insomma. Esatto. Comunque tutti gli anni vengono a controllarlo, a sistemarlo per legge, devi mettere il bollino lì, tutte quelle cose lì. Sì. Carlo Sant'Agostino ci dice i negozi dei giocattoli. Sono scomparsi quelli completamente. Adesso ci sono le catene, ma il negozio di giocattoli non c'è più. Giocattoli e modellismo, aggiungerei anche. Anche il modellismo sta scomparendo. Ce ne sono ancora, perché noi abbiamo intervistato uno che esiste, Model Bergamo c'è ancora. Però sono molto non era grandi. Brescia. Non me ne ricordo tantissimi, una volta sono scomparsi. Non era Brescia, quindi era Bergamo. Ancora questa storia, sì, Model Berg, modellismo Bergamo. Che ne so, io pensavo Berg che era burger, che ne so. Vabbè, comunque in generale, allora, i negozi di modellismo ce ne sono pochissimi, ma pochissimi. Ci sono. E sì, tra l'altro ce n'è uno a Roma, proprio dove passavo sempre io vicino a casa mia, e ancora c'è. So che ancora c'è perché ci sono passato non ci tantissimo sono tempo fa. Di nicchia, ma sono sopravvissuti in qualche modo. Ed è l'apologia del fascismo fatta negozio di modellismo, cioè proprio è una cosa che per me dovrebbe andare in galera solo perché è aperto. Ma quello sarà il proprietario, non perché è modellista. No, no, non perché, no, non in quanto modellista, però diciamo che nel suo negozio diciamo c'è del modellismo. Il proprietario che sarà leggermente nazifascista, insomma, esatto. È una cosa un po' così. E a Monterotondo invece il negozio di giocattoli c'è ancora uno solo. No, uno solo, ma c'è. Sì. Guarda, sì, noi sì, sono scomparsi. Sì, no, in generale sono scomparsi. Sì, non ne trovi più neanche uno, neanche a pagarlo. Guarda, dove abitavo io ce n'era uno enorme. Era un grossista, Torlaschi. Ti dico anche. E quindi eravamo fortunati perché era enorme, vendeva chiaramente come grossista, però vendeva anche al dettaglio noi ragazzini, quindi trovavamo di tutto, i giochi in scatola, ma anche le bisce per far paura alle ragazze, le cacche, il vomito finto. Come si chiama la pallazza che strumpallazza? Grande, la palla pazza che strumpallazza. Sì. Quella ne parleremo nella puntata. Poi dopo i giocattoli andremo nel dettaglio. Comunque, esatto. Io negozi di giocattoli, se ne ho visto qualcuno negli ultimi tempi, poi comunque non mi pare di ricordarne nemmeno uno. Non mi ricordo gli storici. A Milano c'era Cagnoni Giocattoli, che era famosissimo, almeno nella mia zona, andavano tutti in pellegrinaggio. Quando dovevi scegliere i regali di Natale, dicevi sei andato da Cagnoni, andavi da Cagnoni e sceglievi. Ed era il negozio di giocattoli. Ce n'erano tantissimi. Ce l'avevo a Monza c'era, adesso non mi ricordo i nomi, comunque ce n'erano diversi, famosi e non, comunque ovviamente nella mia città ce n'erano tanti che andavo ad ammirare ogni volta che potevo, esatto. Mi attaccavo alla vetrina. Ma noi, allora va bene che ci siamo trattenuti su invito pressante di di Simone, ma i negozi di elettronica e di stereo a Milano. E c'era anche da voi foto discount in Piazza De Angeli scomparsi, no, non mi viene in mente GBC, tanto per essere cioè i negozi Spinelli, di stereo, Spinelli e Fai, tutti i negozi dei Fai. Beh, se poi parliamo dei negozi di elettronica intesi come vendita al dettaglio di componenti elettronici, poi dopo vabbè, quello è dentro tu. A Roma ce ne stavano alcuni, non tantissimi, ma erano iper specializzati, andavi lì perché eri proprio il super fan dell'argomento, lì non solo trovavi, ma ti sapevano anche di che stavano a parlare, insomma, che cosa che oggi nei negozi di elettronica non è necessariamente così, perché ma non ci sono più i negozi di elettronica adesso, però. No, vabbè, però se tu... Io ricordo Marcucci e GBC a Milano, che erano spaziali, cioè c'era Melchioni. La parte elettronica, però Melchioni parte... e GBC sono sempre catene, nel senso, ritorniamo stereo. Sempre al discorso di GBC sicuramente, Melchioni un po' meno. Melchioni c'era pure a Roma, sì, però aveva. Ragazzi, cioè. sì ce l'aveva comunque, sì. Comunque, se stiamo parlando dei negozi di elettronica, vabbè, forse ormai tutti lo sanno perché avranno ascoltato almeno un episodio, in 100.000 episodi l'avrà raccontato, e oltre a uno dei video che in questo momento su YouTube sta spopolando di più, racconta appunto di quel periodo che è durato praticamente 9 anni, in cui io ero un commesso in un negozio di componenti elettronici, quindi io vendevo componenti elettronici a Cinisello Balsamo sempre. Tanto eri per... quello dove i bambini come me andavano a chiedere, ma i LED blu sono già usciti nel 1980X. Noi ce l'avevamo e costava 19.000 lire. Lire, esatto. Mazza, il LED blu è stato un successone quando è uscito. No, comunque, Nel negozio di elettronica, vabbè, io ci ho lavorato appunto, per chi non lo sapesse, con tutta una serie di vicende simpatiche e compagnia. Ed era un negozio che poi, se ci pensate, ci sono alcuni palazzi con i citofoni con i LED blu, così tanto per sbeffeggiare l'epoca, insomma. Cioè. Che però fanno cagare quelli di citofoni. Si vede in cazzo, infatti io non lo capisco, vede... però pare che fanno scena. Fa scena. Non si vede niente. Si vede niente. E comunque, ragazzi, elettronica adesso, io per esempio qua, pensate, non so a Milano come sono messi, ma secondo me non ce n'è più. Dove lavoravo esiste ancora, si è molto ridotto, ridimensionato, ha un altro tipo di mercato. Però dove vivo io qua ce n'è uno che ancora resiste, con dentro i proprietari dell'epoca, che avranno 80 anni, con ancora proprio il negozio, lo vedi, è proprio stile di 50 anni fa, con ancora tutta la roba antica, cioè appeso a parte la roba nuova che trovi in giro, il drone, le lampadine a LED, eccetera. C'ha degli scaffali con appoggiati sopra della roba del 1960-70 ancora, cioè c'è la roba d'epoca. Ogni tanto vado lì per cercare qualcosa di strano, qualche integrato ceramico che secondo me nascosti ce li ha quello lì. Fai un video. Ancora tanta roba d'epoca strana appesa che vende. Il tizi hanno ancora delle cassettiere dietro piene di quella roba lì. E niente, resiste. Questo Facci resiste. Un video del canale, dai. Come diceva prima Franco, buonanotte. Come diceva prima Simone, quasi diamo nomi a caso. No, ho sbagliato. Mi veniva in mente Franchi perché stavo leggendo qua. No, allora, questo qua è, l'ha comprato. I muri sono suoi. Il negozio è pieno di roba che ormai ha già comprato. È lì. Lui c'ha 80 anni, che cazzo ne frega di stare a casa, sta lì, vive lì dentro lui, passa il tempo, se viene qualcuno a comprare qualcosa, bene, se no, piuttosto che stare a casa a grattarsi i pollici. Certo che la corrente la deve pagare, però secondo me, io non so se sta in piedi quel negozio, della verità, però c'è. Lui c'è, è sempre lì, tiene duro finché può. Sì. Allora, io direi, perché qui nel senso che... bisogna anche da un po' un'accelerata, purtroppo come al solito noi mettiamo sempre un sacco di roba sulla questione dei cinema di paese o cinema dell'oratorio di quartiere. Mettiamo un attimo una pausa, perché io ci farò una puntata specifica su sta cosa, perché ci sono una marea di cose da dire su questa cosa. Non sembra, ma in realtà i negozi di computer ed elettronica ne abbiamo parlato, io l'abbiamo detto, ma secondo me ci stanno ancora. E Davide mette anche le lavanderie, quelle con le grosse lavatrici, le tintorie, quelle da noi è pieno, cioè nel senso, anche da noi ce ne sono tante, sì. Vabbè, i circolini dei vecchi bar, quelli là, anche questi. Aspetta, cioè... quella però in realtà mi sa Simone che intende la stessa cosa che ho scritto io sopra. Le cooperative, che io infatti non capivo cosa siano. Allora, la cooperativa, questo devo farti una premessa, è una cosa che presumo esistesse in tutta Italia, ma da noi si chiamava così. Ma ti spiego, vabbè, forse lo sai già, la provincia milanese, soprattutto negli anni 70-80, era prevalentemente rossa, cioè erano tutti comunisti, era partito comunista, appunto, cioè la provincia di Milano era comunista. I bei vecchi tempi. 90% del votava comunista, eccetera. E esisteva, ed era una cosa proprio specifica che esisteva in tutti i paesi della provincia di Milano, adesso è sparita da diversi anni, ma era proprio un punto di riferimento. Esisteva in ogni paese la cooperativa. Ma la forse cooperativa, tu intendi tipo il dopolavoro? Cioè l'associazione. Non so come si chiamava dalle altre parti. Sì, noi la chiamavamo la cooperativa. Vai dalla cooperativa. E fuori c'era scritto cooperativa sociale. Sì, cooperativa sociale. Cooperativa. Sì, ok. Vabbè, che in alcune parti si chiamava il dopolavoro. Comunque, vabbè. Ed era praticamente un grosso bar alla fine, una grossa osteria dove c'erano i vecchi che giocavano a carte principalmente, ma era anche un centro di ritrovo. C'era le bocce, sicuramente, la bocciofila, e poi si facevano lì dentro le feste di paese. Tipo la festa dell'uva di Settimo si faceva lì, dentro la cooperativa. Allora, qui queste cose ancora esistono comunque. E da noi no, sono scomparse, però era proprio un punto di riferimento per noi, anche i ragazzi, dicevi, il nonno sapevi che andava in cooperativa a giocare a carte, e poi tu finivi alla scuola, dove ci vediamo? Ci vediamo in cooperativa, andavi lì, c'erano anche i videogiochi nel periodo degli arcade, sì. Era l'equivalente dell'oratorio, ma non era l'oratorio, era la cooperativa, perché c'era l'oratorio, sì, che... ma noi non andavamo in oratorio, andavamo in cooperativa, hai capito? Sì, in generale proprio... poi erano anche adiacenti, tante volte erano adiacenti, oratorio e bocciofile e barra circolini, boh, si chiamavano, infatti, in vari tu hai modi. Scritto il circolino, da noi si chiamava la cooperativa, però pensiamo che fosse la stessa cosa, il circolino è la stessa roba. O a Roma, com'è che l'hai chiamato tu prima, Simone? Cosa? Hai detto un altro nome di questa cosa che... Beh, io in tanti posti, in tanti paesi, anche nelle Marche, ho visto tante volte la cooperativa sociale, il dopolavoro. Dopolavoro, esatto, sì. Esatto. Non si chiamava la cooperativa. Sì, sì. E questa era per me, io ci ho passato l'infanzia, me la ricordo come il luogo bellissimo, perché era il bar dove andare a giocare ai videogiochi, c'erano le caramelle, ti davano la spuma, giocavi, potevi anche fare la partita a carte come i vecchi, anche se i vecchi non ti volevano, perché tu eri giovane, quindi facevi il banchetto dei giovani che giocavano a carte e i vecchi professionisti. C'erano le vetrine marroni, esatto. Fumo. La briscola, me la ricordo, con le carte che quando te le passavano non si mischiavano più quelle carte, perché ci facevi la pasta, erano una roba incredibile. Virgì dice che da loro si chiamano i circoli, i circoletti, sì, ma anche da noi è così. Ancora esistono, e sì, insomma, poi in realtà da noi purtroppo non esistono più, però per me è un bel ricordo, insomma, no e anche in effetti, vabbè, giocare a bocce quando ci andavi magari col nonno, oppure ecco, col nonno, sì, la cetrata, io la cetrata l'ho scoperta in questi posti qua, la cetrata, la spuma nera, la spuma rossa, bianca. La spuma nera, sì, bianca. Sì, esatto, salutiamo Girasole che non ce la fa, poi ci ascolterà in podcast, ma tanto più o meno, insomma, ragazzi, abbiamo finito, perché poi la cosa assurda, un paio di punti poi da ultimo. Aspetta, mo ti passo. La cosa assurda di una puntata come questa è che sembrava una stronzata, poi alla fine stai qui dopo un'ora e mezza e stavo, anzi, due ore, e in teoria ci sarebbero tante altre cose da dire, perché sono... Vabbè, metti la canzone, però, dai, no, va non bene. La metti, va bene, però dai. Metto la tua, va, aspetta, dai, un attimo. Bravo. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Ma guarda quella là, guarda come fa, guarda come cammina, si gira un po' di qua, poi scatta e sbircia là, sembra una gallina. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come un po' di qua e poi s'accuccia là, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta, una ruota la schiaccerà. Ma del resto tutta la vita è una ruota, la gallina seduta nella via ripete il suo gesto. Questa qua sono andato a trovare il pezzo forte proprio, sì, su richiesta di Carlo. Non era versione originale, secondo me, perché il testo era diverso di quella che mi ricordavo io, però Era tra il ritornello e l'altro, Può essere, può essere. Può darsi che sia vecchio, tu non ti ricordi bene. No, no, perché lui mi ha mandato lo YouTube, io sono andato a cercare proprio il disco, e il disco questo è, cioè nel senso... può essere. Questo ho trovato poi, perché ma magari sai quante edizioni, questa mi sembra anche rimasterizzata, a dir vero, cioè nel senso... Sì, la qualità mi sembra troppo alta. Esatto, mi sembra abbastanza, comunque, di chi stiamo parlando, perché non tutti... Chi è Renato. Ecco, chi è Renato, insomma, vabbè. Vabbè, ragazzi, ti riporta proprio quell'epoca lì delle cooperative di quando ero piccolo. Sì, eccetera. In realtà è anche un'epoca, cioè, che poi un po' c'è anche un po' di romanticismo, io una cosa del genere, perché poi alla fine ognuno di questi aspetti, come tanti che racconteremo magari nel prossimo futuro, nelle prossime canzoni, sì, nelle prossime puntate, in realtà c'è parte dei nostri ricordi, no? Che comunque sono anche il motivo per cui facciamo una cosa del genere. Prima Pier G in chat diceva le sale giochi, no? Cioè, nel senso, ma in realtà sapete quanto ancora ci sarebbe da dire? Però io questa cosa delle catene, per esempio, la lascio per una prossima puntata. Poi so che Davide voleva invece aggiungere qualcos'altro. Sì, solo due dettagli. Uno che mi ero dimenticato di dirlo prima. Non so quanti di voi erano abituati quando esistevano tutti questi negozi, il panettiere, il prestinaio, il macellaio, eccetera, sotto casa. C'era l'abitudine di segnare, cioè tu andavi giù, facevi la spesa e segnavi. Ah, sì. Segna, sì. E poi a fine mese arrivava la mamma che pagava. Io da ragazzino andavo giù, prendevo la brioscina, le patatine, segna. E mia madre a fine mese fa: ma che cazzo hai preso? C'è arrivato un conto da tante lire, ma che hai mangiato? Ma ho preso una patatina, una brioche, una fiesta. E sì, l'altra cosa invece era invece il discorso che forse abbiamo già detto in runtime di notte. Ci dobbiamo ricordare che erano periodi in cui i negozi il sabato e la domenica erano chiusi, e anche un giorno alla settimana o mezza giornata, il lunedì mattina, il mercoledì pomeriggio c'erano delle attività chiuse, e gli unici negozi aperti 24 ore, se c'erano, erano le farmacie di turno e gli autogrill, dove potevi andare in emergenza a comprare qualcosa, partivi, prendevi l'autostrada. No, sì, esatto, cioè non esisteva proprio, cioè se tu ti dimenticavi qualcosa alle 10 di sera, ciao, cioè. C'era il vicino di casa. Anche alle 7 e mezza. Sì, vabbè, 7 e mezza già magari, però dalle 8 in poi era praticamente possibile. Ma infatti c'era l'usanza del vicino che andavi, c'hai il caffè, c'hai lo zucchero. E quello faceva, ma che va a scopare? È così funzionava. Io mi ricordo che tornando alla questione dei circoli, c'erano i posti dove tu entravi, i circoli dei vecchietti dove giocavano a carte, no? E ce n'era uno appeso, non mi ricordo, che tu entravi e c'era tutto il fumo, perché una volta si fumava indistintamente ovunque senza nessun problema, e anche questo è un altro argomento di cui magari parleremo in un'altra occasione, soprattutto per quanto riguarda i cinema. Ma c'era sto cartello bellissimo: qui dentro non si bestemmia, porco. E vabbè, e lì era, insomma, erano i centri bestemmia, sì, erano proprio le bestemmierie, come dicevano. Esatto. Vabbè, Roberto se lo siamo un po' perso stasera, che è preso dai suoi giornali giapponesi. Comunque esatto, mi ero preso la nota di una cosa, non so, sempre per ricordare un po' i vecchi tempi, no? Nel 1975, o adesso più o meno le date, anno più anno meno, chi si ricorda quanto costava un ghiacciolo? Ah no, 150 lire. 50 lire. Ma va, no, io nel 1975 costavano 10 lire. Ma sì, ah, sì, no, 75 sì. Era troppo piccolo, no? No, costavano 10 lire, si trovavano anche a 5 lire. Ragazzi, camminando un po' si andava dalla Pinuccia a 5 lire un ghiacciolo, 10 lire che oggi corrisponderebbero a 50 centesimi. Trasformati con un convertitore cosa storico di valuta, cioè come valore, sì, sì. Però te, oggi, andando fu un attimo, OT nel 93, una pizza molto buona margherita a Napoli quanto costava, dimensioni normali? Ma a Napoli no, ma a Napoli costano meno comunque, non saprei dire quanto poteva costare. 1000 lire, no, ma esagerato, 2000 lire. 2.000-2.500 lire. Sì. Ma anche io mi ricordo che quando andavo in vacanza anche in Liguria c'erano certi posti, certe pizzerie dove una margherita la pagavi 2.500 lire. Sì, sì, con 5.000 lire mangiavi pizza, coca, caffè, dolce forse anche. No, comunque io vi ricordo, i ghiaccioli sono riuscito a pagarli 5 lire, che nessuno qui che sta ascoltando sa cosa sono 5 lire. No, io me le ricordo perché le cercavo che mi piacevano, ma non le usavi già più, cioè no, quando io mi ricordo, avevo memoria, col delfino sopra. Beh, io mi ricordo le 500 lire di carta, insomma, ragazzi, quindi... Sì, 500 lire di carta, anche lì. Le 20 lire che erano tipo le 200 ma più piccole. E i mini assegni da 100 lire, da 50 quelli non lire. Me li ricordo. No, non ve li ricordate? No, quello no, neanche no, io. Erano troppo piccoli. Ragazzi. Tra l'altro, qui vado un po' a concludere. Questa è una cosa interessante perché qui possiamo parlare proprio dei mestieri spariti o quasi spariti, se non ovviamente nei posti dove ancora magari si fa una cosa del genere, che è quello praticamente della consegna del ghiaccio a domicilio. FR, Federico, ci scrive che ha scoperto che esiste ancora in alcuni posti. Praticamente si andava sulla vetta, si scendeva dalla vetta con il cubo gigante di ghiaccio sul carretto, e man mano che si scendeva praticamente si rompeva sto ghiaccio e si metteva nei secchi delle varie case. E così praticamente si creava sta questione del... Credo che quelle siano più, diciamo, in particolari zone d'Italia. Probabile, questo sì. Tipo di cosa. Qui io non ho mai visto il ghiaccio in vita mia. Com'è che, a Roma, com'è che la chiamate la granita? La grattachecca? La grattachecca, sì, vabbè. Sì. Le granite mi ricordo i miti. Ma in realtà la grattachecca e la granita sono due cose diverse, perché la granita è ghiaccio tritato. La grattachecca è il ghiaccio grattato, che ecco. Pare la non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, perché è più grezzo, cioè più, cioè è meno fine. Capito? La granita è proprio fine, capito? Cioè, nel senso, invece la grattachecca sono i pezzetti di ghiaccio, insomma. Ah, io mi ricordo il carrettino davanti alla piscina, quando andavamo in piscina. Sì, sì. Cioè, ma quelli a Roma ancora ci stanno. Con il cubone di ghiaccio, sì, con una specie di pialla che pialla il ghiaccio per fare poi la granita. Ma come... non so. Come ho scritto in chat, a Napoli esistono ancora, anche se ormai sono diventati una cosa diversa chiaramente, gli acquafrescai, che sono una cosa storica, perché quando non c'erano i frigoriferi costoro avevano il ghiaccio che veniva, almeno questa è la tradizione, penso sia vero, messo, la città di Napoli ha dei sotterranei che sono enormi, è praticamente una groviera sotto, ma ci sono in alcuni posti degli spazi che sono degli stadi, per darvi un'idea, non... e quindi sotto la città praticamente esiste un'altra città, ci sono dei posti dove voi potete andare a vedere macchine. Ho visto un documentario degli anni 30, Piero Angela, può darsi. Sì, può essere. C'è un mio amico che ha il parcheggio più bello del mondo, è stato nominato, e se andate sotto per arrivare alle macchine, passate in alcuni di questi antri dove vedete macchine del 1930 che lui ha restaurato e le ha lasciate lì, motorini, comunque. E qui mettevano il ghiaccio perché chiaramente essendo sotto si manteneva meglio, e potevano appunto vendere o l'acqua fresca o le premute di limone, di arancio e così via, con o senza bicarbonato, ai passanti. Quindi è una cosa che esisteva, per noi chiaramente è una cosa fuori dal mondo perché abbiamo i frigoriferi, però non sempre ci sono stati. No, sì, volevo ricordare un'ultima cosa: ci siamo dimenticati di un negozio scomparso che proprio mazza, ce lo siamo proprio dimenticati tanto. Ci lavorava mio fratello pure. Negozi di dischi, ragazzi. Sì, l'avevamo accennato, è vero, nella prediscussione, è vero. Sì, pure quello... Negozi di dischi, Mariposa a Milano, che è scomparso. Tutti questi grandi negozi dove ci passavamo i pomeriggi con gli occhi sbalorditi non esistono più, basta, non ce n'è più. Beh, sì. questi sono scomparsi da tutte le parti. Discoteca laziale, disfunzioni musicali a Roma erano importanti, erano proprio, cioè, perché poi andavi lì e non è che andavi solo a comprare i dischi, scoprivi cose che magari non avresti mai scoperto, parlavi di musica con gente che ne sapeva, era bello, insomma. Simone, una curiosità avevo sentito, ma la grattachecca, cioè la granita di Roma, dicono che derivi ancora dall'antica Roma, che venivano giù dai monti ancora i romani con la neve e ci mettevano sopra la frutta spremuta e facevano... Ah, questo non te lo so dire. Dice Morris che sta cosa del cubo di ghiaccio lo facevano anche nel Frosinate, ed era una cosa anche che si faceva nel Lazio. Allora, i romani so che c'era questa cosa delle botti di ghiaccio o di neve che utilizzavano soprattutto nelle case dei nobili, per tenere fresche le cose e via dicendo. Però poi ti devo dire la verità, se c'è questa questo diretto collegamento, non te lo so dire onestamente. Io so che la differenza importante è che comunque la grattachecca è, comunque essendo ghiaccio grattato grossolanamente, è diverso dalla granita, che comunque è frullata, diciamo così, cioè nel senso il ghiaccio viene frullato più finemente, insomma, ecco, solo quello. Va bene. Vabbè ragazzi, io direi che la mia canzone me la tengo per un'altra volta, perché a questo punto ridefinisco alcune questioni, perché un giorno sarà da parlare anche un po' di quello che una volta si trovava facilmente sotto banco e che oggi è un po' più complicato, diciamo, anche giustamente, tra virgolette. Detto questo, io direi che questa è stata una puntata che, ribadisco, sembrava così una cosa, quattro cose buttate là, invece come avete visto in realtà è quando poi si apre la mente un po' ai ricordi, si costruiscono le connessioni neurali, vedi che escono fuori tante cose, insomma, che chiaramente fanno parte della nostra infanzia, ma soprattutto di un mondo che era comunque sostanzialmente diverso, ma proprio negli approcci, anche nei rapporti, e alla fine il negoziante lo conoscevi, cioè nel senso, sì, ancora oggi in determinati casi, in determinate situazioni è così, però rispetto alle grandi distribuzioni, alle grandi catene, il calzolaio era uno che conoscevi, che comunque se te la fa un favore te lo faceva, vabbè te pago domani, perché insomma ricordavo sempre che la società era diversa. No, indubbiamente, e anche le nostre potenzialità erano diverse, perché altrimenti uno se le comprava le scarpe invece di farsene riparare, insomma. Quindi ci si scambiava favori anche. Ci si scambiava anche quello, esatto. Ti riparo quell'altro. Esatto, esatto, anche sì, come no, voglia, questa è una cosa importante. Quindi detto questo, mi ha fatto piacere fare questo percorso, e la prossima settimana tocca un'altra volta a Carlo, se ricomincia. Quindi Carlo, di che si parla? La prossima settimana ci devi pensare. Giocattoli. Bene, beh, ragazzi, questo farà esplodere il cervello a tanti, come al solito, perché se lo sai, dai robottoni ai giocattoli, è figa come cosa, perché io ce n'ho delle cose da raccontare, perché essendo stato un bambino un po' viziato, ce ne ho avuti dei giocattoli e con tanti mi ci sono fatto anche molto male, quindi posso tranquillamente testimoniare. Allora, ringrazio Roberto Domaiuolo. Grazie a voi, grazie della compagnia e del divertimento anche stasera. Beh, detto così, con questa allegria e con questa gioia. Triste perché è finito, io andrei avanti. Ah, esatto, hai ragione. Scusa, sono io che penso male. Ringrazio e saluto anche Carlo Sant'Agostino. Grazie e alla prossima puntata. Andate sul canale di Archeologia Informatica su sì. YouTube, e iscrivetevi, anche attivate la campanella, tutto quanto. Però mi raccomando, oggi è uscito il video nuovo, vedetelo e condividetelo, che è una cosa. Iscrivetevi, maledetti. Obbligatorio. E iscrivetevi anche al canale YouTube di Survival Hugging di Davide Gatti, che ringrazio e saluto. Vi ringrazio anche a voi, mi raccomando, non guardate solo il video ma anche la pubblicità, così si guadagnano i soldi. Esatto, sì, bravo. Tra l'altro oggi mi sono visto, lo dico poi così chiudiamo, mi sono visto il video nostro di Archeologia Informatica, quello che è uscito, con il mio account personale, e dicevo, guarda sti stronzi la pubblicità che ci mettono su sto... Poi ho detto, ma no, aspetta, siamo noi, va bene la pubblicità. E devi anche, io quando guardo i miei video e comincio la pubblicità, la faccio andare avanti fino a sì, pure io sì, 25 secondi, guardo, faccio dell'altro intanto che va, e poi arrivo a vedermi il mio pezzo che devo vedere, però intanto la pubblicità la faccio girare. Vi dico, oggi Giorgio Morocutti mi ha scritto, il presidente di Retto Campus, che è il protagonista del video che abbiamo pubblicato oggi. Giorgio fa, oh complimenti, avete messo la pubblicità che mi piace a me. No Giorgio, non la mettiamo noi. Esatto. La ma come avete fatto a capire che io ho i gatti? È perché YouTube sa che tu hai i gatti. Esatto. Io comunque oggi mi è successo, ho parlato di la parola, ho scritto Photoshop o qualcun altro l'ha scritta, io non so se l'ho scritta su Telegram, vi assicuro che sono andato su Facebook, la prima pubblicità che è apparsa di Photoshop, che io non ho mai visto la pubblicità di Photoshop in vita mia, cioè non ho mai vista vedere, eppure è apparsa, secondo me. Non so. Togli anche il secondo te. Va bene, dai ragazzi, comunque domani sera ore 21 e 30 gli abbiamo detto al nostro ospite, sì. Una puntata, torna Archeologia Informatica proprio in podcast live, ma Carlo, che di che si parla? si parla di una cosa che piace tantissimo a Davide Gatti. No, è vero. Vabbè, dai, era per dire Spectrum contro Commodore. No, si parlerà ancora, stranamente, è un periodo che parliamo spesso di ZX Spectrum, ma ne parleremo in una maniera un po' particolare, perché parleremo dei cloni russi fatti nell'est Europa del Sinclair ZX Spectrum. No, è molto interessante. Non solo lo Spectrum, ma anche i cloni, mio Dio. Ma... va bene, ragazzi. Ma vedrai delle belle sorprese, secondo me, invece. Sì, sì, no, sono no. Cloni, saranno anche cloni, però... sai, si parlerà dell'elettronica russa. Quando hai le privazioni delle cose, ti devi ingegnare, ragazzi. Esatto, loro lo si ingegnavano. Diciamo che preferiamo altre cose della Russia, ma va bene così. Bene, ragazzi, allora, mi raccomando, www.rantemeradio.it, da domani tutta la normale programmazione, fino a domani sera alle 21.30 ci sarà questa puntata nuova di Archeologia Informatica, che finalmente torna la prossima settimana, addirittura torna pure Archeologia Videoludica, e poi torneremo pure con Ludico Forum. Detto questo, io vi ringrazio, continuate a seguirci su www.rantemeradio.it, cliccate su Anche Io e lì potete aderire, insomma, all'iniziativa Runtime Anch'io, dove potete decidere se dare una mano tramite Patreon oppure fare una donazione una tantum tramite PayPal. Decidete voi se volete, perché chiaramente tutta questa struttura è gratis, è per voi, ma è comunque un costo per tutti, e insomma sostenerla è sempre un bene. Vi lascio con il brano della settimana e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Voilà, c'était plus important, c'est pas grave, le coronavirus, c'est rien. Un frais, c'est rien. On passera à autre chose. On risque rien, on est des schtroumpfs. Voilà. Coronavirus, patience, life should hand to everybody. Coronavirus, patience, life should hand to everybody. On passera à autre chose. On risque rien, on est des schtroumpfs. Voilà. Voilà, c'était plus important, c'est pas grave, le coronavirus, c'est rien. Un frais, c'est rien. Voilà, c'était plus important, c'est pas grave, le coronavirus, c'est rien. Un frais, c'est rien. Et de la souffrance du monde. COVID-19 can be characterized as a pandemic. COVID-19 can be characterized as a pandemic. I see the disinfectant that knocks it out in a minute, and I can do something like that by injection inside. Let's virus through. You'll be beaten out of my key to shake hands. Keep out the virus with the man. You'll be beaten out of my key to shake hands. It's just quieted down quite more than it was. You don't hear. It's just quieted down quite more than it was. An opportunity to slow down. An opportunity to slow down. An opportunity to slow down. An opportunity to slow down.